Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Comunque a questa punta cattive, cattive e il mio sogno è quello di parlare con calma, come gli è stata data la possibilità a questo porco di Parenzo, a questo sionista, perché ormai è un sionista, mi sono documentata. Parenzo vuole portare tutta l'Africa in casa e devono morire tutti coloro che dicono viva Parenzo, viva Parenzo. Cruciani, tu devi, allora, devi avere lì in quella trasmissione un bastone e spaccargli la testa a questo idiota ogni volta che parla. Allora, questo che tu hai a fianco a te, un domani molto lontano, la tua carissima figliola si domanderà: papà, ho visto delle foto tue quando eri più giovane, c'era un'Italia diversa, papà, cosa sono tutti questi con i turbati in testa, con queste palandrane, dove non è possibile andare via con la minigonna, perché quando crescono questi è normale che se tu nel nodo ci butti l'acqua, è normale che il nodo non diventa più acqua. Parenzo è un assassino, Parenzo è lo scroto di George Soros. Se vai a vedere i coglioni di quel criminale, troverai l'effigie di questo criminale. È la stessa immondizia, è la stessa immondizia. Finché avrò forza cercherò di fermarti, perché tu devi sparire. Verme! Presenti qui, presenti qui, anche in questo ponte, presenti a combattere, presenti a combattere. Regista criminale la corte, criminale la corte. Allora, caro Parenzo, subito. Caro, subito un saluto all'amico Macron, al banchiere di Rothschild. Ci siamo! Stiamo arrivando alla guida della Francia! Fermati i populisti! Fermati tutti, Macron, l'uomo che ha studiato all'ENA, un uomo dell'élite! Ciao, Marie Le Pen, via! Macron, arriviamo! Rothschild, Mauro da Mantova! Ci siamo, siamo vicini! Manca poco! A me l'unica cosa che mi piace di questo Macron, ripeto, per chi... Sì, lo so che ti sei emozionato per il fatto che Marine Le Pen, sono tutti contro Marine Le Pen. Tu sei emozionato da questo fronte antifascista, sì, contro molto, la signora molto, Le Pen. Molto. E sei emozionato perché potrebbe vincere tra due settimane l'Europa, potrebbe, contro gli Bravo, antieuropeisti. Con la bandiera, aspetta. La prima intervista con la bandiera dietro, con la bandiera d'Europa, la sacra bandiera. Ti fa emozionare il fatto che sia un banchiere, un ex banchiere. Un ex banchiere, ti piace moltissimo a te, beh, questa cosa, un ex banchiere, no, ti piacciono molto, sì, non è un camorrista, diciamo. Però, oddio, magari i banchieri ogni tanto fanno più danni dei camorristi, potrebbero fare. Fascista al servizio di Vichy, non è la dinastia nera della Francia, perché anche questo è già una dinastia devo dire nera. La verità, l'unica cosa che mi piace adesso del signor Macron è la moglie. Beh, amico mio, devo dire, uno che a 17 anni pare che si incappettasse, sembra che si incappettasse la sua professoressa di italiano, di francese, in questo caso italiano, no? Di francese. Beh, questo, amico mio, me lo fa rivalutare. Tutto il resto non mi interessa, preferisco comunque la Le Pen, che vinca la Le Pen. Cioè, tu voteresti la Le Pen in Francia? Ma penso proprio di sì. Cioè, tu penso non lo so, non mi piace. Io non posso continuare a condurre con uno che dice di votare la Le Pen. Ma non dire cazzate. Io ho la pregiudiziale di fascista. Ma non dire minchiate. Ma quale fascismo? La Le Pen non se ne fotte. Tu voteresti la signora penso Le Pen? Penso proprio di sì. Tra Le Pen e Macron, penso. L'unica cosa, ti ripeto, che mi fa un po'. così è propendere dalla parte. Il fatto che la signora abbia 64 anni. Beh, no, e lui non 39. Beh, no, il fatto che lui da, a scuola si incappettasse la sua professoressa. Beh, questo, beh, questo non, lo trovo eccezionale. Non possiamo dirlo, la first lady. Beh, che first lady, a parte che non deve ancora vincere da due settimane, signor Macron. Non succede, ma se succede. No, al contrario. Vincono le elite. No, perché vincono le elite, capito? Non succede. Questa cosa complicata, l'Europa, l'elite. Vince mamma. L'Europa. Lui si è fatto. È intervenuto con la bandiera d'Europa. Non succede. Guarda. Ma se succede. No, non adesso, succede. È il contrario, ma coglione. Se succede, un uomo dei Rothschild da governo della Francia, amico mio. Comunque, guarda, l'unica cosa che mi fa piacere non questo succede, Macron. Non succede, Macron. Ma se succede. L'unica cosa che mi fa piacere questo Macron è che si inchiappettava al liceo. Pare. La vecchia, all'epoca per lui vecchia, sì. Oggi oggettivamente un po' vecchia con le rughe, però ancora no, un bel fisico. Invece a te invece fa schifo, me l'hai detto no, fuori no, onda. Schifo, e lo devi dire, ti fa schifo beh, quella no, insomma, dai, di 64 anni. Ti fa schifo. Sì, la vecchia hai detto, quella vecchia lì. Come si fa? Come si fa? Come andare al museo egizio? Ecco, dillo. Però, come andare al museo di Torino, però voglio dire invece la cosa bella che mi fa innamorare di questo personaggio è che lui veramente era innamorato della prof e ha detto, lo hanno mandato i suoi addirittura a Parigi a studiare nella speranza che i due si allontanassero e lui gli ha detto io tornerò da te e ti sposerò. Questo francamente mi mette, beh no, il fatto che lui l'abbia cercata, ricercata, eccetera, io ti sposerò, quindi è tornato dal suo grande amore, io torno da te e ti sposerò. Allora, c'è un commento straordinario del signor Adinolfi sulla coppia Macron, ex professoressa. Che squallore. Meraviglioso. Che meraviglioso. Molto originale, fra poco ve lo leggerò. Ragazzi, il Papa. Papa, lo sai, io veramente mi sono rotto i coglioni di questo Papa. Mi sono veramente rotto i coglioni. Posso dirti, non è la mia azienda, no. Ma non si può dire così. No, sì, io mi sono rotto i coglioni del Papa. Milioni di. Mi sono rotto i coglioni del Papa, che è il paladino dell'accoglienza a tutti i costi. Salvini, sono libero di dirlo perché non sono politicamente corretto ogni tanto devono essere pure questi personaggi. Su questo settore qui, su questa azienda, come dici tu, quella dell'immigrazione, io vado oltre. Dico, il Papa mi ha rotto i coglioni. Aprissero i cancelli del Vaticano. E aprissero i loro appartamenti, non ci scassassero i cabasisi. Questo signore con la palandrana bianca parla mezzo spagnolo, mezzo italiano, che ci viene a dare lezioni di accoglienza a noi. Ma chi è? Ma che vuole sto Papa? Perché deve parlare di accoglienza? Di ma chi terra, se ne frega? Io non lo riconosco come autorità morale, non lo riconosco. Mamma figuriamoci che, come autorità politica. Allora, c'è posto per tutti i migranti? Senti, se ogni comune ne prendesse due, cioè se ogni comune italiano ne prendesse due, secondo il Papa, che viene a rompere le balle alla politica di accoglienza quando le porte del Vaticano sono serrate e fino a poco tempo fa c'era la pena di morte e hanno messo sotto indagine, quando si fanno i cazzi loro, pure i giornalisti di casa nostra, ricordate i casi famosi? Posto per tutti i migranti se ogni comune ne prendesse due. Prendeteli al Vaticano! Se in Italia si accogliessero due migranti per municipio, ci sarebbe posto per tutti. Su, è vergognoso. Ma che vergognoso? È vergognoso. Non fare la fake news. Dillo, sono d'accordo col Papa. Sono d'accordo col Papa. Bene, totalmente, okay, perché ha detto una cosa giusta, cioè ha detto se ogni comune, municipio accogliesse due migranti in tutta Italia, ti dimostra uno che non c'è nessuna invasione, perché due per ogni due sarebbe perfettamente gestibile, cioè ha detto una cosa di assoluto buonsenso che nessun politicante italiano dice. Ma è una per follia. Paura di perdere ma che consenso, vuol dire? Due ma è una migranti frase senza a comune. Senso. Tu una... sei senza senso. Ah, tu dai. Sei senza senso. Tu e la Le Pen sei pagato dalla Le Pen. Pagato dal Fondazionale. Allora, i campi rifugiati, questa è una cosa che dovrebbe giustissima. Questa è una cosa. Aspetta, questa è una cosa che dovrebbe fare indignare anche te. I campi rifugiati come campi di concentramento. Cioè, capito? I campi dei rifugiati, i campi profughi dove ogni tanto i migranti chiedono di fare lo scrub. Dove le migranti, abbiamo saputo, tu dici giustamente, chiedono di fare i corsi di make-up, di bellezza, di make-up. sono come i campi di concentramento. È una frase vergognosa questa roba qua. Non c'è nessun campo di concentramento di Dallas. Sì, ogni tanto ci può essere qualche campo, qualche CIE, no? Come si chiamano, no? Che adesso sono stati anche ristrutturati in un altro modo, dove certamente non stanno benissimo, non c'è dubbio. Ma i campi di concentramento cosa diavolo c'entrano, per parlare di diavolo, in questo caso che c'è di mezzo il Papa? Ero a Lesbo e ho trovato un uomo trentenne, non so se è stato capace di uscire di quel campo di concentramento, perché i campi di rifugiati tanti sono di concentramento per la folla di gente. Lo dice pure, capito, con questa voce da far compassione. Molti sono campi di concentramento. Sono brutti, sono posti orribili. I campi di concentramento erano quelli di Auschwitz. Ma lo sappiamo. È un'altra cosa, la gente veniva portata lì a forza. Quelli ci vogliono arrivare lì, portati spesso dalle ONG, i famosi taxi. Eccolo. I famosi taxi. Eccolo, ma non lo dico io. Eccolo, dico di Poletti. Ma non lo dico io. Poletti, non lo dico io. Ma che c'entra? Eccolo, non lo dico che io. Il procuratore di Catania, un tale Zuccaro. Zuccaro. Aspetta. Da quando è che citi i procuratori che stanno facendo un'inchiesta su una ONG specifica, non su tutte? Abbiamo evidenze che tra alcune ONG e i trafficanti. Sai, qua sono migliaia di alcune organizzazioni ONG, per capire, per chi non, per tutte le persone che, non governative, esatto. Sono, aspetta, delle... e i trafficanti di uomini che stanno in Libia ci sono contatti diretti. Non sappiamo ancora se e come utilizzare processualmente queste informazioni, ma siamo abbastanza certi di ciò che diciamo. Telefonate che partono dalla Libia verso alcune ONG, fari che illuminano la rotta verso le navi di queste organizzazioni, navi che all'improvviso staccano i transponder, sono fatte, significa che vanno a prenderle direttamente. Ma non le ONG. D'accordo, non mi interessa quali, non mi interessa. Tutte le migliaia, d'accordo, di organizzazioni governative vanno che in Italia, lì, d'accordo, fanno quello che lo Stato non fa, cioè l'aiuto, l'assistenza, non soltanto ai migranti, altrimenti ma anche agli italiani. Ne arriverebbero di meno. Ma che... se non ci fosse un taxi diretto per arrivare in Italia, ma con ONG che ci muoiono in continuazione. Quale che taxi? Muoiono, ne vengono salvati troppo pochi. Ma non li hai visti i cadaveri in acqua? Ancora il Papa. La guardia costiera. Ancora il Papa. Che senti, che si interessa pure. Che si interessa pure del ma fatto, no, che noi non facciamo figli. Senti, suicidio, chiudere la porta ai migranti quando non facciamo i figli. Il Papa. Senti il Papa. Siamo una civiltà che non fa figli, ma anche chiudiamo la porta ai migranti. Questo si chiama suicidio. Ma perché io devo farmi dettare la linea? Devo riconoscere come autorità il Papa? Ma chi come... Perché il Papa? Perché il Papa fa è un governante, ma è un, no, governante, ma ha responsabilità, è eletto da qualcuno, eletto da qualcuno. Sì, lo nomi, ma chi? Ma quali? Sì, appunto, dai, attraverso lo e Spirito i cardinali, Santo, chi li elegge, i cardinali? Ma chi li elegge? Ma da quando è che ti pone un problema Spirito di democrazia, Santo, diretta in Vaticano? Io mi sono rotto i coglioni di questa cosa qua, del Papa, che dobbiamo sentirlo, no, come se fosse un... l'autorità morale, l'accoglimento. Ma che mangiapreti? E devo dirti la verità, sono dalla parte anche del signor Di Maio oggi. Sono dalla parte del signor Di Maio. Se ti piace. Devo così dirtela chiaramente sulla polemica, per chi ne fosse a conoscenza, perché naturalmente le persone non ne sono a conoscenza, il grande pubblico, quello che ci segue, non è che si interessa della querela tra Saviano e Di Maio. Sostanzialmente se ne sbatte i coglioni di queste cose qua. Comunque no, Di Maio no, ha detto, sì, se ne sbattono i coglioni. Di Maio ha detto che le ONG sono i taxi del Mediterraneo. Ecco, vedi quante generalizzazioni, come le ONG. In questo tanto caso io lo posso dire, perché attacco spesso indagata, i 5 Stelle quando dicono ONG cazzate. Ha ragione Di Maio. Ma se si devono fare i salvataggi in mare, si devono fare con le regole di ingaggio della nostra marina e non con ONG che in questo caso sono accusate di essere dei veri e propri taxi del Mediterraneo. Con Saviano che dice invece salvano le vite umane, certo, tu sei dalla parte di chi li vuole in mare. Perfettamente ragione Saviano, ovviamente, ma per una questione non tanto di... ma non tanto di umanità, ma del perché fatto Di Maio lo dice strumentalmente? Assolutamente, strumentalmente, vuole prendere perché i voti della Lega, certamente. Ma che vuole prendere, c'è i voti? Una componente, ma perché gli altri non vogliono stelle prendere gli altri voti? Che è tutta politica anche quella, che vuol perché dire? Perché è popolare oggi dire salvare gli immigrati, secondo te, in Italia? È popolare. Fermo lì, purtroppo, fermo lì. No. Fermo lì. Purtroppo no. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Ma cosa aspettano a chiudere questo programma e mettere un programma che parla di ricette di cucina? Ma cosa aspettano? Cosa aspettano? Cruciani, pensa come siamo ridotti. Dovremmo lavorare, invece siamo imboscati in macina ad ascoltare la zanzara. La zanzara. Siamo a top, siamo al top. Parenzo, vai a fare in culo. Ma è così a buffo, così. Così a buffo, a freddo. A bruffo, sì, a freddo, così. Senza ragione alcuna, senza alcuna ragione. Comunque avete sentito l'esultanza di Parenzo, che ormai sente la vittoria a portata di mano. Senti la vittoria di Macron a portata di mano. Il giornalismo anglosassone, quello understatement, beh, quello insomma, che non prende posizione per Macron. Non prende posizione il giornalismo indipendente, terzo, mai fazioso. Mai fazioso. Il giornalismo che non considera la Marine Le Pen la morte dell'Europa. Una fascista potenziale al governo, no? Giornalismo indipendente, moderato, ragazzi, come nello stile del Sole 24 Ore. Per tornare con i piedi per terra e non occuparci di questioni lontane, in realtà anche vicine, come Le Pen, Macron, eccetera, eccetera, di percussioni ci possono essere, come è evidente. Però per tornare cose, a cose più terra-terra, più perfetto, percepibili. Le trans. No, lascia perdere le trans. In genere vai, allora, Vedelago. Provincia di Treviso. Ferisce il bandito durante la sparatoria. La guardia giurata: ora temo per la mia vita. Il metronotte ha paura per la famiglia. I parenti del giostraio annunciano di costituirsi parte civile. Maior, così si chiama questo giostraio, 37enne, ancora gravissimo, è in ospedale e forse sta morendo. Cioè, il metronotte ha sparato a un ladro, a una banda di ladri, e adesso dice: e ha quasi ammazzato uno di questi, 37 anni. Ho paura, potrebbero vendicarsi con la mia famiglia, nessuno di noi è al sicuro, ho paura di ritorsioni. Ha molta paura di ritorsioni verso se stesso e la sua famiglia, è stato identificato dai componenti del clan. Lui ha capito chi sono e ha letto del loro passato, dice l'avvocato. Ora vive temendone la vendetta. La cosa incredibile è che è stato messo subito sotto indagine, Parenzo, subito sotto indagine, per omicidio, là, quello che è, no? Per legittima difesa. Sì, no, tentato omicidio. Tentato omicidio, amico mio. Subito accusato di tentato omicidio. La guardia giurata che ha sparato. Però è normale. Poi hanno trovato una pistola giocattolo nei campi dove sono fuggiti questi signori, questi rapinatori dei bancomat, capito? Però, normale, però, no? Ma non lo so se è normale. Non dovrebbe nemmeno esistere il processo. Non nemmeno, ha nemmeno sparato, però sai, sì, come la penso. Quello è sicuramente un ladro ed è in fin di vita, d'accordo, però ha sparato e quindi questi si vogliono costituire parte civile, i parenti si vogliono costituire parte civile e ottenere probabilmente dei quattrini da questo signore, perché magari proveranno che questo qua è esagerato a sparare, capito? Cercheranno di provare, questo qua molto probabilmente passerà un inferno, questo signore, questo metronotte, chiaro? Tommy da Pavia, avanti. Pronto? Tommy? Chi è? Oh, buonasera, Cruciani. Con chi parlo? Tommy a Canaglia. Tommy a Canaglia, amico mio. Qui abbiamo sentito Tommy un sacco di gente fino adesso. Tommy a Canaglia. Siamo abituati. Un pornoattore italiano. Tommy la Canaglia. Tommy sono in macchina con mia moglie Lady Muffin e nostro figlio Marco Aurelio di 8 anni. Pensa, capito, che bella famigliola. Ma perché che bella famigliola? Pensa, perché devi criticare Tommy a Canaglia? Ecco qua, io lo sapevo che adesso Cruciani. Pensa che meraviglia di famiglia. Ma perché qua, ma qual è il problema? Scusa, niente, uno non può fare il pornoattore con la moglie, la sembra una roba. Vabbè, comunque dai. Ma io non Parenzo, allora dimmi, io ti devo mandare con un immenso affetto immediatamente a fare in culo. Dimmi perché due pornoattori italiani non possono essere dei bravi genitori. No, ma sicuramente, ma questo per carità, ma chi lo dice? Ma se non sono mica così stupido. Nostro figlio in macchina con noi ed è felice di avere due genitori così. Quanti anni ha tuo figlio? Scusa, Tommy a Canaglia, quanti nostro figlio ha 8 anni. Ma non può dire. Ma cosa dice a scuola? Quando a scuola gli fanno fare i pensierini come mia figlia, sì, racconta la tua famiglia, il tuo papà e la tua mamma. Che cosa racconta l'adorato Pargolo? No, ma adesso per carità, poi scusami, poi a 8 anni, scusami, a 8 anni non è che dice sono contento del fatto che mio padre faccia fa il porno star, non credo. Suo papà fa il camionista, la mamma fa la modella, ok? Come secondo lavoro è, perché comunque è un nostro piacere. Ah, tu fai il camionista e tua madre e tua moglie la modella. Poi ogni tanto tempo perso. Ogni tanto quando ci capita, quando abbiamo delle delle richieste, delle case produttrici che ci contattano, giriamo anche film hard. Io sono tutto etero e mia moglie è bisex. Noi, al nostro figlio abbiamo sempre spiegato tutto. Ma in maniera molto chiara. Cosa avete spiegato? Ci avete spiegato che noi ogni tanto facciamo i film porno, eccetera, eccetera? Ma nel senso che abbiamo spiegato, insomma, a parte lui è abituato a 8 anni, a vedere... non credo che gli avete fatto vedere film porno. No, vedere film porno no, assolutamente. Ci manca però... pure questo. Ci mancherebbe, no? Che ne so io? Ci mancherebbe. Però comunque lui è abituato, diciamo, al mondo delle modelle, a vedere tante ragazze che girano, insomma, per caso, a vedere anche degli shooting di nudi. Modelle, insomma, gente nuda. Semi nude. Il problema di essere nudi, forse è un problema tuo, Parenzo. Ma non ho mai avuto questo problema. Io non ho mai avuto otto anni far vedere figuri. Le scene scabrose ai figli, magari non è bellissimo. Sto dicendo di scene scabrose, sto dicendo della semi nudità, insomma, del vedo non vedo. Mio figlio non ha nessun problema, non ha nessun blocco, cioè mio figlio, anzi, se vuoi te lo passo anche al telefono. Non si può fare, per carità. Però voglio capire, Tommy, non ho capito bene. Tu stai dicendo che Parenzo spesso è bigotto. Parenzo è una famiglia, mi pare una famiglia normale. Lui è camionista porno attore, lei è modella porno attrice, bisex, il figlio 8 anni al telefono, anche sentendo la zanzara, magnifico. Tutto normale. Cosa hai da dire contro questa famiglia? Cosa ho da dire? Amico mio, cosa vuoi che ti dica? Ma non ho niente contro. Camionista mi sta simpaticissimo, la modella pure. Normale che della gente giri con il bigolo di fuori al pomeriggio mentre quello fa i compiti a casa sua. Va bene così, ma io non chiedo l'arresto di nessuno, non gli voglio togliere il... Ma figuriamoci, quello dice è normale, mio figlio, naturalmente, mio figlio vede passare per il salotto anziché il papà architetto, ma non occorre che sia architetto, magari idraulico. Lo vede passare nudo con il pisello, dice papà, è passato Franco, perfetto con sto pisello fuori. Ragazzi, se la vostra vita è questa, fate voi, va bene, va bene. Permettimi una cosa, io vi seguo tutte le sere, vi adoro. Grande. Volevo riprendere. Il mondo del porno è sempre stato con noi, amico sempre, mio. Sono i grandi elettori cosiddetti. Scusami un attimo, il porno, poi riprendo il porno, non lo guarda nessuno in Italia, nessuno, no? Sì, questo è vero. Solo tuo figlio, quanto abbiamo appreso a questo punto. A un mese dall'uscita del nostro ultimo film, ha preso 40.000 visualizzazioni. Vabbè, adesso non è che devi fare marchetta, però... Tommy, come si chiama sto film? Vado a vedere. Tommy, scusami un attimo. Ma voglio sapere il film come si chiama? Vado a vedere. No, non lo dice. Tommy, giustamente, non vuole fare pubblicità. Tommy, scusa un attimo, che voti tu? Di solito, che voti? 5 Stelle votare. Ma guarda, allora mi simpatizzo un po' per i 5 Stelle, però secondo me poi alla fine sono tutti uguali. Volevo prendere il discorso simpatizzo di quel con i voti di Maio, dai, perfetto. Parlo attore con il figlio, vota di Maio, perfetto. Parenzo, dimmi un attimo, ma quel pensionato di 80 anni che ha preso 500 euro di multa perché è andato con una prostituta. Sì. Cosa mi devi dire? Dimmi. Tommy, bisogna mandare le foto. Che vuoi che ti dica? Pensa che tu sei un miserabile. Pensa che quelli sono dei miserabili. Dai, fermo di tutti, fermi. Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi raccuoco. Comunista di merda. Non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Soltanto imparare a camminare. Se non ci sei tu, comunista di merda. Beppe, porca puttana. La zanzara. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo non mi interessa. Ma chi cazzo me l'ha fatto fare a far ascoltare la zanzara a mia moglie? Maledetto me, bastardi voi. Proprio il giorno in cui c'era Anna da Milano, quel cazzo di squirting che ha. Minchia, ho le dita che mi stanno facendo male. Ho passato una serata di inferno. Mi sta venendo anche l'artrosi deformante dalla fatica che ho dovuto fare. Mia moglie mi ha messo in croce con sto cazzo di squirting che si può indurre. Ma andate a fare in culo voi e Anna da Milano. Beppe, porca puttana. She was enraged by the way that the emperors were trapped in the cage and Asmodeo sei. Asmodeo, vai via. Io non riesco a capire, David, perché ancora ci si stupisce quando uno dice di lavarsi il giusto. Ecco appunto, di io questo volevo, questo volevo introdurre. Apprendo di tue dichiarazioni anche sonore, oltre che no, in audio, diciamo, pubblicate da uno dal quotidiano probabilmente più autorevole italiano, fondato nel 1876. Quotidiano fondato nel 1876, parlo del Corriere della Sera. Sì. In cui tal Cruciani, mi dicono, sì, sì, vero, paladino vero, della moda di lavarsi poco. Ma aperte, no, virgolette, è una semplificazione giornalistica. Io mi auguro una smentita assoluta, perché altrimenti la tua permanenza tutto con il gruppo Sole 24 Ore sarebbe totalmente incompatibile. Cioè, uno sportaggio. Perché è un signore che non amo acqua e sapone. Sì, sì, è vero, è vero. Ma tutto non vero per ragioni etiche. Confermo tutto. No, ma confermo la cosa grave tutto è che il cosiddetto Cruciani, sì, dice, ma non per ragioni etiche. Dice, no, beh, magari certo, corona, risparmio, no, energetico, sì, sì, no, l'inquinamento, no. Semplicemente sono pigro. Cioè sei un zozzone pigro. Si può sentire l'audio? Prego, regia, agevolare l'audio, per cortesia. Agevolare l'audio, agevolare. Ho semplicemente l'audio detto a una gentile signorina, no, che lì, mi ha chiamato, sì, sono refrattaria all'acqua, non avverto l'esigenza di sciacquarmi in continuazione, mi lavo per necessità e non per piacere. Questo è vero. Se potessi, se uno potesse non lavarsi, per me sarebbe ottimo. Però che devo fare? Bisogna lavarsi, perché ogni tanto uno è sporco, sì, beh, corre, sai, sai cos'è la civiltà, sì, no? Lo sì stare insieme, il rispetto degli altri. Possono passare anche 4-5 giorni senza una doccia. Possiamo dire che fa schifo questo? Ma no, per lavarsi che fa a pezzi. Fa quasi il palio con la straordinaria paio, sì, coppia. Il paio, il paio. Il paio è quello di Siena. Sì. Fa il paio con quello che abbiamo sentito poco fa, quel quadretto familiare straordinario di una famiglia che si appresta a celebrare il 25 aprile e in macchina. Nessuno lui porno attore, lui porno attore, sì, lei porno attrice, il figlio di 8 anni, ed è normale che il figlio in casa vede della gente passare con dei piselloni enormi. Dice: papà, no, no, non ti preoccupare, stiamo girando un film porno, amore mio. Tutto questo a te sembra normale? Fai il paio, no, ma col tuo essere uno non zozzone. Ha detto questo. Che dice, beh, praticamente il signor questo Jimmy, o come si chiama, Tommy, so, a canaglia. A canaglia. Cosa fa papà? Niente, Tommy a canaglia, fai film porno. Va bene, benissimo, normale. Ma perché dovrebbe essere più figo, più chic fare l'avvocato, ma non lo il so, notaio, ma il giornalista, no, l'idraulico, comunque Libero giustamente mette igiene personale, mette una tua foto orrenda, peraltro giustamente una foto che sei stravolto, igiene personale, Cruciani, virgola, la sua battaglia, come fosse il Mein Kampf, che non, no? È vero, sì, la sua battaglia contro acqua e sapone, due punti, ogni quanto si fa la doccia. Ma dai ragazzi, ma dai. Allora ragazzi, oggi non so perché mi schiero dalla parte del signor Di Maio, devo dire la verità, mi schiero dalla parte del signor Di Maio. C'è il quotidiano Repubblica, non solo il quotidiano Repubblica, alcuni esponenti del PD che lo massacrano accostandolo sostanzialmente alla camorra. Ora, come sapete, ci sono molti motivi per criticare il signor Di Maio. Sì, giusto, i congiuntivi, le proposte, quando dice che bisogna distribuire milioni invece di bombardare, sì, milioni di dollari sui rifugiati, sulla Siria, quello che è, eccetera. C'è tantissimi motivi per criticare il webmaster, come direbbe il signor De Luca. Ma accostarlo alla camorra, una o stupidaggine, uno ha prove concrete che il signor Di Maio ha dei patti segreti con i signori camorristi, folle, oppure prendere una foto in cui si fa fotografare insieme a degli esponenti di 5 Stelle locali di Mondragone, in provincia di Caserta, e sotto tra i commenti c'è una frase, diciamo, normale del figlio incensurato, così sembra, sì, di un noto camorrista, ex camorrista storico, peraltro oggi collaboratore di giustizia, per non farvela troppo lunga, è una porcata inaudita. Ve lo posso dire che è una porcata. Quello che ha fatto la signora Picerno, esponente del PD, è una puttanata. Diciamo semplicemente che è un accostamento un po' azzardato. Ma non c'entra, dai, nulla, diciamo, tu dici così perché devi essere più diplomatico. Io lo posso, sì, dire è un più chiaramente, un lo posso fufu dire più chiaramente. Sì. No, ma c'è modo e modo. Non puoi attaccare uno dandogli del camorrista, prende i voti dalla camorra, dovrebbe prendere distanza. Si è fatto la foto con uno con esponenti locali dei 5 Stelle. Tra i tanti commenti a questa foto c'è un signore figlio di un camorrista, abbiamo accertato noi. Pare assolutamente incensurato, con nessun legame con la camorra, tranne il padre camorrista. Allora, che non c'entra nulla, però non è che la camorra, cioè la camorra si accorda con Di Maio o Di Maio accetta i voti dei camorristi. È una puttanata. Sì, giusto, una, cioè questi del PD devono, possono attaccare 5 Stelle su tante cose. Lasciassero perdere queste puttanate, dai, su. Oh, le Iene hanno passato una giornata intera con la signora Boldrini. Con la signora Boldrini, l'amica nobile. L'amica nobile. Senti. Stefania Nobile. Sì, senti, senti. Adesso facciamo la riunione. Subito la riunione? E i suoi collaboratori dove sono? No, li chiamiamo. C'è la riunione con la presidente. Si leggono i giornali, in particolare gli articoli già selezionati dal portavoce. Il direttore del Foglio dice questo allarme sulla sicurezza non è fondato. Si commentano. Sembra che però nella percezione noi viviamo nel Far West. Un ultimo sguardo ai documenti. Sala delle donne. Queste sono le prime donne in Parlamento. Queste sono le prime sindache. Non se ne sapeva nulla di loro. Questa è la grande Nilde Iotti, la prima presidente della Camera. Sua predecessora. Eh sì, questo fa empowerment per le ragazze. Cosa fa? Empowerment. Dà potere. Potere alle donne. Potere alle donne. Dopodiché però io non avevo una foto di donna da mettere come presidente del Senato, come presidente della Repubblica, né come presidente del Consiglio. Cioè lei ha messo degli specchi perché? Ho messo gli specchi, non c'avevo le foto. Quindi per proiettarsi nel futuro. Sì, le ragazze devono credere in loro stesse e sapere che possono anche ambire a questi ruoli. Posso? Beh. Provare l'emozione? No, ma ragazzi, non ci posso credere. Cosa ha fatto? Ha messo gli specchi per proiettarsi nel futuro. Beh, può essere un'iniziativa. Ma di che stiamo parlando? Ma siamo a livelli di follia. Ma no, può cioè, essere. Trattasi una cosa... di follia. Cioè, trattasi di follia. No, ma... Ormai è un'ossessione. Noi saremo ossessionati dalla Boldrini, ma in realtà. Commentiamo quello, le ossessioni stesse della Boldrini. Poi in un cortocircuito magari siamo ossessionati anche noi dalle ossessioni della Boldrini. Sì, bravo, ecco. Io non lo so. Però ragazzi, almeno quella ha un ruolo. Noi siamo dei, come dire, dei giocolieri della radio. Quella è pagata da noi per fare una sala dove ci sono gli specchi, dove le donne possono entrare. Vabbè, però, guardarsi e proiettarsi nel futuro, no? Ma quale simbolico? Tanto, quale insomma. Simbolico? Poi corregge la Nobile sulla presidente, ma la Nobile lo fa apposta, è tutto un gioco, pure questa, anche lei si presta a questi giochi, inutile che fa tanto la seriosa. È chiaro che lì la Nobile fa apposta a chiamare la presidente il presidente, nah, sentiamo, dai. Il giorno dopo, a Torbella Monaca, nella periferia di Roma, siamo di nuovo con lei. Per vedere cosa fa il presidente della Camera oggi, qual è? Presidente, la... perché sono una donna, come lei, perché quando tu a un uomo gli dai, no, del femminile, dici signora deputata, fa ridere, ma quando... danno del maschile a una donna non fa ridere altrettanto. Oh, la gente se ne fotte. La gente semplicemente se ne fotte, cara Boldrini. Le posso assicurare, la gente se ne sbatte i coglioni di queste cose qua. Il 99% delle persone di queste distinzioni formali se ne sbatte i coglioni. Ma totalmente, totalmente, totalmente. Merita una riflessione questo. No, non merita nessuna riflessione. Ragione, Mattia, tanto, provincia di Modena, vai, forza. Iniziamo con la Sarabanda, ragazzi. Sarabanda. Vai. Ciao, vai Mattia, ciao, vai. Giuseppe, non mi deludere, 24. Noi siamo qui a combattere con voi. A combattere con voi, oddio che. Niente. Ciao Giuseppe, ciao David. Io ciao, stasera volevo chiamare, ho chiamato per raccontarvi la mia esperienza. Sì, già mai fatto due coglioni così dopo 10 secondi. Comunque i rom vicini di casa, vai. Dai, fammi raccontare. Ai rom vicini di casa, questo sì, è buono. Sì. Mia nonna, ai rom vicini di casa, no? Tua nonna. E non stiamo parlando dei rom quelli da campo, parliamo di gente coi soldi che ha pagato la casa in contanti, 500.000 euro in contanti, Ma cioè, che c'è un campo rom o dei rom? Non ho capito. Dei bene. Rom che hanno comprato una casa, però è il re dei rom. Meno male, ragazzi. Sperando che quei soldi là siano regolari. Comunque, il fatto che non siano in un campo rom e mi hanno comprato la casa, questo è buono. Beh, è buono, questo è buono. Però tralasciando le urla e i litigi che ci sono tutti i giorni. E vabbè, molti italiani litigano, sì. Appunto, meno male. In casa adesso, oggettivamente, anche qui attaccate su cose, non come la stessa cosa di Di Maio, aspetta, dai. Aspetta. Allora, che vuoi dire, Mattia? Hanno un disabile in casa, lo maltrattano. Anche gli italiani ce l'hanno. Lo maltrattano, denunciali se lo maltrattano. Gli lanciano lo stendino in testa. Sai tu? Questo è brutto. L'hai visto? No, perché l'ho visto, certo, ho visto più di una volta. Denuncia tutto la polizia. Denuncia tutto, vabbè. I carabinieri ci vanno spesso, però, poi. Vabbè, dunque? A parte questo, vanno a cagare nel bosco di fianco a casa mia, che è di mia pertinenza. Ora, perché se tu hai i servizi a casa tua vai a cagare nel mio bosco che è di pertinenza? Francamente non conosco però le vicende di casa tua in provincia di Modena. È una cosa delle tante. Ma non lo so perché vanno a cagare lì, amico mio. Non lo so. Li vedo passare con questa carta igienica in mano, vanno a cagare nel ma bosco. Perché? Quanti sono dentro quella casa? Scusa. Ma sono parecchi, perché hanno anche lo spazio per mettere i camper di lusso dietro la casa. E quindi sono parecchi. Sì, fammi capire, però, qual è la tua denuncia qui alla Zanzara? No, cioè, la mia denuncia è che questi rom, come direbbe il professor Tormenti, questi rom che pure comprano le case, che pagano in contanti, anche se sono in buone condizioni, mantengono delle abitudini sbagliate. Perché non mi chiedo io? Perché non vuoi integrarti? Non ci hai detto un cazzo, Marco da Milano, dai, Marco, non ci hai detto un cazzo, dai, Marco da Milano. Buonasera, vorrei tornare rapidamente sulle affermazioni del pontefice, pontefice che abbiamo risentito prima, con tutto, per carità, non voglio offendere chi lo rispetta e capisco la religiosità, però sì, assolutamente, però scusate, siamo arrivati a un limite oltre il quale si diventa irridenti verso i nostri giovani. Sono frasi inappropriate, cioè? Perché ecco un altro, ma per un motivo semplice, ma perché non si può commentare il Papa, non si può commentare il Papa come fosse poi le spiego anche perché commenta il Papa. No, si chiama questo qua? Marco da Milano commenta il Papa, forza, il commento dalla sua altezza, commenta il Papa, dei nostri giovani che sono col tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Europa, sono i peggiori pagati d'Europa. Vabbè, questo che c'entra? Luciani, c'entra perché se quell'enorme vampiro che ci sta dissanguando, che è l'immigrazione clandestina, l'enorme vampiro, capito Parenzo? Ma cos'è? L'enorme vampiro. Mario Giordano, vampiri. Un pochino delle risorse, non dico tutte. Cioè tu dici, se queste risorse fossero destinate ad altro? Un pochino, i nostri giovani, invece di riempirsi la bocca dicendo che si ferma la fuga dei cervelli con quattro borse di studio, se si desse ai nostri giovani l'opportunità di guadagnare... Sì, vabbè, non è solo questione di quattrini, giovani, però. No, Cruciani, i nostri giovani farebbero figli, perché guarda, io lo dico da tecnico, faccio anche, mi occupo anche di infertilità maschile. Alla domanda perché avete aspettato così tanto, la risposta è perché non avevamo i soldi. Però scusi, che c'entra con l'infertilità maschile questa cosa qua? Ma perché se uno aspetta 40 anni, perché fino tu dici, a 40 poi non c'è non più ha uno stipendio... Lo sperma non è più fecondo. Ma è evidente, ma... noi ecco, ma è interessante questa cosa qua, lo sperma può, quando è che... Ci sono dei processi... Aspetti un attimo, che questo mi ha suggerito qualche, guarda che tu anche 60 mi ha suggerito anni, poi... qualche domanda, Marco. Che mestiere fai, Marco? Che sono direttore di un reparto di urologia in un ospedale universitario. Ah, quindi un medico. Questo è molto buono, questo è molto buono, Marco. Aspetta, molto buono, un tecnico, molto buono. Pronto! Parenzo! Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. E non permetto a nessuno di parlare male del Papa, capito? Sarai te vestito come lo spaventapasseri, non lo sei vestito come spaventapasseri, perché ti puoi permettere. Ciao, va, mori ammazzato. Asmodeo, vai via! Lasciami stare! A me mi piace usticchio! Asmodeo! Allontanati! Asmodeo! Asmodeo! Dai! Asmodeo, ma dimmi una cosa! Ma che ne dici se te porta a scopà? Ma perché non organizziamo uno scherzo con Don Gataldo? Mo passi, richiamiamo, ci parlo io, però è una cosa seria, Ci dico buonasera, sono Carmine da Roma. Le volevo dire che io c'ho un problema molto serio. Io una volta sì, una volta no, devo andare a scopare. A me mi piace la fregna. Come facciamo? Mi liberi dal male, Don Cataldo. Mi liberi dal male. A me mi piace la fregna. Non posso stare senza fregna. Prima la fregna, prima lo sticchio. A me mi piace lo sticchio. Come possiamo fare? Mi può dare una cura lei? Come posso fare per non pensarla? Come posso fare per non ci pensare? Come posso fare? Don Gatà, mi dica lei. Chiamamolo Giuseppe, chiamamolo che ci voglio parlare. Asmodeo, vai via. Questo era il karma, Parenzo. Non so se ti sei reso conto. Carmine, detto il karma quotidiano, che vuole essere guarito, pretende di essere guarito. Allora, parlavo di Mario Dinolfi. Macron è sposato, scrive a Dinolfi, con Brigitte, che ha 24 anni più di lui. Mia madre, quando mi ha partorito, aveva 24 anni. Ecco, se scegli per moglie una che può essere tua madre, non stai bene. È oggettivamente qualcosa di innaturale. Per dirlo, ma è una cosa pazzesca. Sarebbe innaturale un 64enne che sta con una 39enne? Lo sarebbe meno, al netto di ogni luogo comunismo politicamente corretto. La natura spiega facilmente il perché. Cioè, secondo Adinolfi, è naturale che un 64enne stia con una 39enne. È meno naturale che il 24enne, cioè che il, scusi, dove l'ha visto? Ma che il 39enne stia con una 64enne. Quando lui si riferisce alla natura spiega facilmente il perché, credo che si parli della questione dei figli, cioè la donna è non può avere figli a 64 anni. Questo certo. È il punto. Mentre un uomo in teoria li può avere. Non è tutto, Parenzo. In Francia si insiste molto, scrive Adinolfi, su Brigitte come copertura di un'omosessualità di Macron non ostentata ma inserita in una logica di lobbismo gay. Ma come si Forse non è rilevante, ma che in Francia si passi dalla premier dame ad una sorta di premier mam, questa non è male, la premier mam, non è solo una nota a margine di costume. Andrebbe considerata persona non gradita in Francia, qualora vincesse il buon Macron. Persona non gradita. Invece, amico mio, io ogni tanto, siccome di follie vegane ce ne sono ogni giorno, dovrei fare o una rubrichina apposta, ma dopo un po' mi rompo i coglioni a fare le rubrichine costanti sui vegani, altrimenti dicono come sulla Boldrini che sono ossessionato. Ma te ne segnalo solo una, amico mio, te ne segnalo solo. Sì. Domani, come sai, il 25 aprile. Come no? E c'è questa ricorrenza tragica, drammatica. No, è il compleanno mio padre, soprattutto. No, tragica, drammatica, semplicemente perché è una rottura di coglioni del 25 aprile, una roba. Sì, il 25 andrò una cosa alla manifestazione stantia. Che fa la comunità ebraica con la brigata ebraica. Una cosa domani. Stantia. Comunque Prato, stantio sei tu, stantio, Prato, che non ti lavi. A Prato, il circolo Arci di Borgo Nuovo, vicino Prato, organizza il pranzo del partigiano. Vabbè, e fin qui, vabbè, ci sono tante iniziative. Ottimo, anch'io che non sono particolarmente appassionato al 25 aprile, dico vabbè, meglio organizzano il pranzo tutti insieme. Forse a Prato ci andrei magari con i miei questo figli. Il pranzo menù, questo è il menù: schiacciatine e crostini misti. Va bene, pasta ottimo. Al forno, buono. Arista con patate ed insalata dolce. Vabbè, io non posso mangiarla. Ma 18 euro gli adulti, 10 euro i bambini sotto i 10 anni. Pranzo popolare anche. Gratis i bambini sotto i 5 anni. Tu sai chi ha rotto i coglioni a questi signori? No. Tu lo sai, prova a indovinare. Ripeto il menù, i vegani. Ma cosa c'è di vegani? Per vegani l'arista vegani non partigiani. Si può scrivere, è indecente secondo loro. Che diano al pranzo del partigiano, non riesco nemmeno a dirlo, l'arista con le patate ma e l'insalata. Ma cosa ne frega loro? Ti giuro, i vegani locali, non so di quale cazzo di associazione locale, hanno detto che è indecente perché i partigiani o l'AMPI, non so che cazzo di sigle, non capiscono la sofferenza che c'è, capito? Non capiscono la sofferenza che c'è. Facendo un paragone anche tra la sofferenza partigiana e la sofferenza animale. Ma io se fossi dei partigiani gli darei una schioppettata. Una schioppettata finta. Una dici? Schioppettata a salve. Sì, col sale, dici. Allora, la Boldrini dice che le manifestazioni fasciste il 25 aprile vanno vietate. Ma questo ha ragione perfettamente. Vanno vietate per legge, ovvio, sono già vietate. Sì, mi sembra coerente vietare una manifestazione di ispirazione fascista il giorno del 25 aprile, quindi condivido pienamente la decisione della prefetta, del questore, delle autorità locali di non consentirla, perché sarebbe veramente in totale contraddizione con lo spirito di quella giornata. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo giusto. A Alessandro, anzi no, eravamo Marco, Marco da Milano, sì. Marco, dai, richiamatelo, cazzo, dopo. Alessandro, provincia di Milano, vai, Alessandro. Sì, no, niente, io volevo dire che ciao a tutti, niente, praticamente me la Boldrini mi fa troppo sesso, guarda. Vabbè, adesso quello chi se ne frega, Alessandro. Come chi se ne frega? Cioè, che ti fa sesso la Boldrini, ce ne facciamo una ragione, insomma, dai. Perché no, dai. Senti, ma chi voce, se ne frega, dai, Alessandro, adesso chi se ne frega che faccia sesso la Boldrini, capisco che... Ma scusami, allora chi se ne frega che tu non ti fai la doccia, cioè la stessa beh, roba. No, quello ha un impatto anche su chi ci lavora, che è diretto, un impatto no, diretto. Anche perché, scusami, mi sembra che l'hai inventato tu che non ti fai la doccia. Chi ha detto che l'ho inventato tu? Io? Non ho mai detto. Non lo so. Cioè, lo sanno da generazione in generazione che il vero uomo ha da puzzare. Ma queste sono stronzate, dai, Alessandro. Ciao, Mariella da Trieste, mi hai rotto i coglioni già. Mariella da Trieste, dai. Ciao, Mariella, ragazzi. Dimmi. Allora, io avrei una curiosità da soddisfare. Vorrei chiedere se in Israele... Da scusa, Netanyahu... Mariella, ma tu hai la voce di... sei donna, sì? No, sembra che c'è una voce strana, che non da donna. No. Forse sono messa in un punto che non va bene. Sarà rauca, poverina, ma insomma... No, ma non voglio dire nulla, per carità. Pronto? Sì, ma non è che avere la voce sarà da uomo sia un dramma. Poverina, no. Vai, dimmi. Allora, Maria. Posso parlare? Sì, dimmi. Deve parlare. Allora, cara, volevo sapere se in Israele si può entrare senza documenti e quanti rifugiati hanno loro. Ha ragione Mariella, vuole dire che se uno si presenta in Israele, bussa rifugiati alla porta e dice scusi posso entrare, non è che lo accolgono come tantissimi migrante. Rifugiati, faccio, è vero sì, che sì, c'è il terrorismo, ma fanno 100.000 controlli. Fanno tanti controlli, ma ti dico di più, controlli anche a prenderli. Cacciano le persone appedate no, nel sedere. Hanno ospitato. Dai, Davide, no, giustamente sono durissimi. La storia dei giustamente falascia, sono durissimi. La storia dei falascia sono stati addirittura senti, presi. Sono durissimi gli israeliani nei confronti di qualsiasi migrante, sono durissimi. Ma quelli erano ebrei, non c'entra nulla. Erano ebrei quelli che stai citando te. Sono andati a prenderli, ma li hanno portati con un ponte aereo contro chiunque, con chiunque voglia entrare in Israele, sono durissimi. Controlli durissimi. Giustamente, come dovrebbe essere in Europa e in Italia. Marco da Milano, quello di prima. Allora Marco, tu sei un medico urologo? Sì. Urologo. Senti, ma è vero che c'è un sacco di gente che viene dagli urologi, eccetera, con problemi di sessualità, con problemi di erezione, con problemi anche, o no? Bah, sì, ovviamente. Cioè c'è stato un aumento negli ultimi anni? Ma un aumento sicuramente legato, beh, intanto a essersi liberati dai tabù per cui si va a farsi visitare. C'erano cioè anche prima e non venivano, adesso il tutto è molto più, come dire, esposto e i pazienti... Ma solo quello fortuna, oppure sono aumentati gli impotenti, diciamo? O comunque gente che ha problemi di erezione? Allora, sicuramente ci sono degli scenari che evolvono. Ci sono fattori come l'inquinamento ambientale, lo stress lavorativo, il burnout, sono sindromi, la disoccupazione, persone, tantissimi pazienti... Cioè lo stress può portarti ad una minore attività... Ad una minore carica sessuale, dici tu? Sì, la carica sessuale, la libido dipende da una sfera endocrina e da una sfera psicogena indotta da mediatori neuroendocrini del cervello. Ma molta gente viene da te dicendo che ne so, ce l'ho piccolo. Ma questo succede, ma raramente, devo dire. Raramente. Grandi inchieste di no, congiati. Ma che ne so, sono curioso. Per carità. No, che ne so, cioè quali sono i problemi per cui vengono di più da un urologo, da una persona? Ma, per farsi... ma l'urologo, io no, ma problemi sessuali, tumori, dico. Ma no, parlando di problemi sessuali, sono il deficit erettile e l'infertilità, sono i due grandi temi che ormai insomma fanno da padrone in questo settore. Vito, la deficienza erettile, Parenzo, bellissimo questo termine, la deficienza erettile, cioè praticamente ti tira poco, questo è il punto, questo è un problema. Lei consiglia pasticche e cose varie oppure dice di no? No, io consiglio prima gli accertamenti e in seconda battuta cioè, le terapie. Funzionano veramente le varie pasticche secondo lei? Assolutamente sì, quando c'è un'indicazione corretta, il problema è non prenderli col fai da te, perché il deficit erettile può essere la punta di un iceberg clinico molto più complesso, può è un tema interessante, Parenzo, lo riprenderemo. Ciao Marco, ciao, grazie. E poi un altro pensiero, c'avevo in quanto per i vegani, per i signori vegani, è proprio il mio sogno trombarmi una vegana dentro una macelleria. Allora, amico Cruciani, io purtroppo non posso mai intervenire in diretta perché ascolto solo il podcast. Però devi dire ai nostri cari amici vegani che non possono fare il paragone del, o comunque dire, avete mai, hai mai portato tua figlia a vedere un macello, a vedere come vengono macellati gli animali, perché deve vedere onor del vero. Perché allora gli chiedi se hanno dei figli, se quando gli devono spiegare come si fanno i bambini, se li portano in camera mentre mamma e papà trombano e gli fanno vedere come trombano mamma e papà, perché onor del vero devono vedere come trombano mamma e papà, allora forse così capiscono come si fanno i bambini. E poi gli dici anche, sempre a questi cari amici vegani, se quando nascono i bambini li portano in sala parto a vedere cosa accade in sala parto, perché onor del vero devono vedere come nascono i bambini, senza parlare di apete e non apete, fiori e impollinamento. Onor del vero, onor del vero, Allora ragazzi, voglio farvi ascoltare alla fine della trasmissione dell'altro giorno, Parenzo, di venerdì, sì. È intervenuto, come sai, il signor Piccardo, Davide Piccardo, come figlio, no? Di Hamza Piccardo, considerato sì. Hamza Piccardo, ti ripresenta, che è un uomo che ha tradotto in, sì, in Italia, posso dire, che è un Corano. Posso dire che è un estremista, ex autonomia operaia, poi Islam un po' radicale, operaia? Eccetera. Il padre comunque, di autonomia operaia, sì, non lo Piccardo, so io, sì, sì, sì. Comunque, Davide Piccardo ha detto che la Santa Che, che la Santa Che, non mi interessa se siano italiani, la Santa Che ha detto della Santa Che è in simbiosi con l'ISIS. Cioè, la Santa Che e l'ISIS sono due facce della stessa medaglia. Il signor Piccardo, considerato un moderato islamico in Italia, vivono l'uno dell'altro. Ma dai, su, ma non può. Ma l'ISIS, l'ISIS. Sono in simbiosi, la Santa Che e l'ISIS sono in simbiosi. Se fosse in Iraq, la Sant'Anché sgozzerebbe la gente. Se la Sant'Anché fosse nata in Iraq, sgozzerebbe la gente. Sgozzerebbe la gente. Questo non lo sa. Questo, ma sicuro, no, questo sicuro. Ma dai, Piccardo. Ancora Piccardo a favore della poligamia. Italiano a favore della poligamia, che dovrebbe diventare legge. Lui dice, questo ha detto. Parole sue, parole sue. Sei a favore della poligamia? Beh, assolutamente sì. Cioè, su, sei a favore della poligamia? Ma certo, il riconoscimento del diritto alla poligamia. Poi ognuno fa quello che vuole, voglio dire. Beh, amico mio, però la poligamia è una cosa che, cioè, voglio dire, per la donna... Ma tu sei per il diritto ai trans, a fare orge, gangbang. Piccardo, Matteo Salvini con noi. Ragione, ciao. Eccolo. Buonasera, buon lavoro a chi sta lavorando. Ecco. Differenza. Eccoci qua. Ma Salvini, tu conosci questo non Piccardo? Non succede, ma se succede, Macron, le banche, l'Europa, il sogno non tramonta. Abbiamo scoperto mio, stasera, Matteo, che Parenzo praticamente Macron fa il tifo, ma un tifo sfrenato per Macron. No, non hai idea. Pensa che tristezza, ironia della sorte per uno che si direbbe di sinistra, certo, dover tifare per un banchiere Rothschild sostenuto da Soros. E che male c'è, anzi? Dalle borse, no! E pensa poi leggere che la maggioranza degli operai, degli artigiani, degli agricoltori e dei disoccupati ha votato Marine Le Pen. Anche questo non pensa, è vero fino a un certo punto. Vabbè, comunque, voteranno i francesi. No, non ho piacere di conoscere il signor Piccardo, uno che spara quelle cazzate lì e che parla di poligamia come se stesse parlando della schedina del Totocalcio. È italiano, è italiano. Ha degli evidenti problemi. Sì, potrebbe anche essere esquimese, però sostiene delle idee abbastanza bizzarre. Ho letto che anche l'imam della grande moschia di Parigi sosterrà Macron. Sì, beh, certo. Tutti. Beh, tutti. Mi pare tutti, ovvio. Quell'altra li vuole spellere, per forza. C'è il piccolo problema del fatto che votano i cittadini. Sì, vabbè, quello mi sembra. Gli intellettuali, i banchieri, i finanzieri, votano anche i cittadini. Senti, qualcuno è scandalizzato dal fatto che sta con una di non so quanti anni più grande di lui. A te ti scandalizza questa cosa? No, quello della vita privata uno può fare quello che vuole, assolutamente. Non mi fa né caldo né freddo. Mi suona strano che uno si presenti come nuovo e antisistema quando è cresciuto a pane, soldi, banche, finanza, beh, soldi e ha fatto il ministro... Beh, insomma... Beh, mi pare che anche Borghi abbia fatto il banchiere. Mi pare che anche il responsabile tempo, dell'economia della Lega, che è un mio amico carissimo, tempo, non viene esattamente dai sobborghi di Milano, l'amico Borghi. No, urlo perché mi accaloro. Però mi pare che il compagno Borghi non venga dai sobborghi della periferia milanese. Ecco. È un bravissimo economista, simpatico, ex banchiere. No, sto semplicemente dicendo che compatisco l'imbarazzo di chi appunto festeggiando la liberazione, i compagni dai campi delle officine, poi ho costretto a tifare per un banchiere, con tutto l'affetto per i banchieri, per carità di Dio. Io domani, peraltro, il 25 aprile, passo a Verona, al Palazzetto dello Sport, per proporre una legge normale sulla legittima difesa. Cioè, non vai a festeggiare la liberazione, non fai a festeggiare. Un paese, cosa c'è? Libertà di sparare domani. Non c'è niente, domani non c'è nulla da festeggiare. Ma cosa c'è da festeggiare quando si festeggia la liberazione dalla dittatura e dall'invasione? Dall'invasione, e adesso l'invasione viene organizzata e finanziata. Cioè, chi ha dato la vita, cioè è peggio del nazismo e del fascismo questa roba qui? No, dico semplicemente che c'è molta ipocrisia, come dicevano i responsabili della brigata ebraica che non saranno in piazza domani a Roma. Domani a Roma ci sarà a sfilare qualcuno che inneggia all'estremismo islamico. Su questo ha ragione Salvini. Su chi partecipa alle manifestazioni. Ma ma io domani non sono contro, io domani sarò con Io sarò a Verona. Sì, lo so, perché c'è una manifestazione sulla legittima difesa. Un paese non è libero se non è sicuro. Poi a me spiace perché la retorica della resistenza è stata sostanzialmente usurpata da una sola parte politica. Sì, ma quella è una vecchia questione. La resistenza l'hanno fatta bianchi, gialli, verdi, questo è vero. Cattolici, federalisti. Sì, per anni c'è stato il monopolio comunista su questa roba, diciamo la verità. Questa è come la del realtà, primo è questa, maggio, dai. Come del primo maggio, ma non sono mai andato da sindacati che hanno poco a che fare col lavoro. Io non sono mai andato a nessuna manifestazione. Male, guarda male. Referendum all'Italia, guarda poi quando i lavoratori parlano, lì c'era il solito accordo di governo e sindacati, i lavoratori hanno fatto bene a dire basta. Allora, ha ragione Di Maio o Saviano nella questione delle ONG, secondo te? Cioè, tu sei dalla parte di Di Maio, che dice che le ONG sono praticamente dei taxi, no, più che altro parte che lo dite voi, che, insomma. Più che altro Di Maio è arrivato con 2 anni di ritardo a sostenere quello che è evidente, non perché è sostenuto da me. Cioè, tu che Lega. Cosa faresti con queste ONG che sono accusate direttamente da un procuratore della Repubblica? La finanza a controllare tutti i loro. Ma questi sono a Malta, ma però. Tutte? Sono a Malta, bloccherei tutte le navi che battono bandiera italiana. Per quelle che battono bandiera straniere, Malta, Panama, Norvegia, Germania, non attaccano in un porto italiano mai. Mai. Dovresti ringraziare le migliaia di ONG che nel silenzio lavorano, pubblicano i loro bilanci. Di migliaia di clandestini. No, guarda, ma che la maggior parte. Qui si parla di una ONG. Di una. Hanno appena bloccato e arrestato un marocchino che stava preparando un attentato a Torino. Sì. Ecco, vedi le risorse che ci pagheranno le pensioni. Hanno arrestato due italiani che in Romania stavano smaligiando un. Però io voglio dire una cosa. Gli italiani che vanno a rubare in Romania. C'è la fila che vanno a fare. Io voglio dire, Saviano critica Di Maio. Ma Saviano chi? Saviano cosa? Saviano quando? Uno scrittore. Due ladri italiani in Romania. Dice che le ONG italiani rapinano in Romania. Dai, è una cazzata. Sì, è vero. Sarà vero. Due italiani rapinano in Romania, certo. Dai, va bene. Allora guarda, facciamo pari e patta. Non mandiamo più rapinatori italiani in Romania e non prendiamo più rapinatori rumeni in Italia. Però scusami, Saviano che dice che le ONG salvano vite umane, che Di Maio sta dalla parte. Le ONG fanno soldi. Le ONG fanno soldi. Ma che le soldi? Fanno quello vero, che lo dai, Stato vero, non dai, fa. Dai, su. Ma come si fa a sputare in generale su migliaia di organizzazioni senza le quali? La cosa grave è che la Marina Militare, la Guardia Costiera, che dovrebbero essere pagati per difendere i confini da sicurezza, fanno i vice scafisti. Ma secondo te è vero? La Guardia Costiera fa i vice scafisti. Ma secondo te è vero? Secondo te è vero che le ONG contattano direttamente gli scafisti col telefono? Ma quali ONG? Ci sono tante testimonianze che questo riportano e ci sono anche alcune procure che su questo stanno indagando. Quindi io è vero una cosa. Portano, Davide, scusami un attimo, perché negare questa cosa? È del tutto evidente, lo dice un procuratore di Catania. Ma di una, stanno parlando di una situazione che riguarda peraltro Malta. A fronte no, di migliaia, le portano in Italia, li portano migliaia, no, Malta, che c'entra? Ma se qualora vi fosse un reato vanno perseguite e chiuse. Ma di due ONG, ma è chiaro che se tu sai che si tratta del reato. Ma dite delle cose incredibili, è dite. Migliaia è in corso sono. Un'enorme operazione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Punto. Che quest'anno, stando al Viminale, non è più reato. In Italia non è più reato. 250 Parenzo, ti segnalo, Matteo, che Parenzo vorrebbe abolire il termine clandestino. Ah, no, certo, renderlo un reato. La parola clandestino vorrebbe abolirla. Non abolirla. Solo io, certo. E vorrebbe anche. Che parola dovremmo usare? Scusa, no, migranti. Migranti. Migrante. La parola clandestino è dispregiativa. Se uno bussa a casa di Parenzo, può entrare allora, può entrare, secondo Parenzo. Guarda, sono i regimi che cancellano le parole dai vocabolari. La parola va su... No, vabbè, ma Saviano che dice che le ONG servono, che le ONG servono a salvare vite umane, cosa rispondi tu a signor Saviano? No, ma che le vite umane dovrebbero salvare le navi della Marina Militare e della Guardia Costiera, perché ogni vita umana è preziosa. Ti salvo, ti curo, ti nutro e ti riaccompagno da dove sei partito. Ma tu non faresti mai un'alleanza con, un'alleanza con 5 Stelle? La faresti? Su molte ma cose. Idea ogni quarto d'ora. Ma scusa, gli stessi 5 ma Stelle. Ma fosse che per te, saresti d'accordo? Non sarebbe meglio fare l'alleanza con Di Maio piuttosto ragazzi, che con Berlusconi? Ma l'altro giorno regalavano le piantine di marijuana, si preoccupano ma due di, dei 5 Stelle, di dai. Veganesimo. Due dei 5 Stelle, dai, due dei 5 Stelle, capito? Sull'immigrazione dicono una cosa un giorno, ne fanno un'altra, sull'euro hanno già cambiato idea, sull'Unione Europea hanno già cambiato cioè, idea. Cioè tu dici, non si capisce quello che vogliono. La cittadinanza è sostanzialmente, sarebbe l'ennesimo favore a chi non ha la cittadinanza senti, fai, italiana. Dimmi una cosa, fai un fioretto, se vince la Le Pen che fai? Tu sei grande tifoso della Le Pen, ma se vince la Le Pen che fai? Vai a piedi da che no, ne so. Le mie condizioni fisiche sono assolutamente precarie. E quindi do ragione a Parenzo su qualcosa. No, ma no, sono disposto a dare ragione a Parenzo. Senti, su siccome qualcosa, mi pigliano per il culo oggi sul lavaggio, quante volte ti lavi? La doccia te la fai ogni giorno? Non spero. Oggi ho fatto un'intervista al Corriere della Sera in cui dico che in realtà la doccia me la faccio non tantissime che volte. Schifo. È il risparmio idrico. Tu ci tieni alla No, per quello, perché sono pigro, non sopporto l'acqua. Tu, ma tu fai la doccia ogni giorno oppure mi no? Di sì, dimmi di no, spero di no. Sì. Però ti capita di stare tre a portata di mano? Ti anche a te piace fare la doccia. Meno disastro, male, che meno disastro. Male. No, ma sai, ogni tanto mi lavo i capelli, mi faccio la barba, meno male. Cose che sì, ma le mutande gente... per quanto tempo le tieni? Puoi tenerle 3-4 giorni? Puoi tenerle... Mesi e mesi e mesi. No, veramente. Tendenzialmente le cambierei ogni giorno. Meno però male, però male. Puoi anche stare 4-5 giorni senza ma cambiarle. Ma che schifo, ma figurati. Ma no, ma che porcheria è? Ma dai. No, ecco, qualcuno al governo, se vincesse la ricetta a Parenzo, probabilmente costringerebbe gli italiani a stare 4-5 giorni con lo stesso paio di mutande. Però io non vorrei arrivare a questo livello. Vabbè ragazzi, allora fermi tutti che fra poco chiediamo a Salvini del Papa, sì. Perché oggi sono state delle dichiarazioni del Papa incredibili, se qui mi sono veramente rotti i coglioni. Adesso io, dentro di sé, Salvini deve tirare fuori il suo, quello che io credo che sia il suo atteggiamento perderà nei confronti del Papa. Perderà tutto il voto cattolico, Salvini, perderà il voto cattolico. Tu sei il più grande curatore del mondo. Sei il più grande curatore del mondo. Cattiva! La zanzara. Maxima. Trevo. But the first one who had a dentist steal all your attention. It's making me ill. You got no friends in your home. You got no family stone. You can't go, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Everyone in every town, in a wrong name, chip, no town, that street will gather around. Allora, siamo con Matteo Salvini, leader della Lega Nord, all'indomani, caro Parenzo, del primo turno delle elezioni in Francia. È evidente che Salvini fa il tifo per la Le Pen, c'è un grande fronte. Avete fatto l'apparentamento tra noi con Cruciani e noi con Salvini? Avete fatto, sai che Cruciani fa la lista noi con Cruciani, ma no? Ma non è vero. L'avete fatto l'apparentamento no, o no? No, non c'è nessun apparentamento. Guarda che se cambiano le regole di questa Unione Europea, va bene anche sì. A te, Parenzo. No, va bene tutt'altro. A tutti quelli che vogliono vivere del proprio lavoro, non va bene ai parassiti, ai mantenuti. Ma quelli no, però, vabbè, però le regole di questa Europa sarebbe però, fondamentale scusa, per chiunque voglia lavorare. Scusa, io voglio chiedere una cosa. Il Papa oggi ha detto due o tre cosette molto interessanti. Non ho sentito. Beh, no, ti faccio sentire subito. La prima è questa. C'è posto per tutti i migranti se ogni comune ne prendesse due. C'è posto per tutti i migranti se ogni comune ne prendesse... Ma chi se ma ne frega dell'Anci? Già l'Anci! Questo però è matematicamente sbagliato, perché essendo 8.000 i comuni italiani, due per comune fanno 16.000. Sì, cioè non basterebbero, No, ce ne abbiamo 180.000. Cioè non sa la matematica, il Papa non sa la matematica. No, dice. No. Sì, ma si può anche criticare il Papa, Salvini. Ma figurati, ma lo dici a me. Quando l'altra sera sentivo il TG1, ero coi bimbi via un giorno, sentivo il TG1 e diceva che ci sono le culle vuote, e allora siccome sì, gli italiani detto, non fanno sì. più figli, sì, non sì. si possono non accogliere i migranti. Sì, è questo. Ma che ragionamento è? Cioè una puttanata, diciamolo. Ma una puttanata, lo possiamo dire. Il Papa ogni tanto dice delle puttanate, dai. Non su. Mi farai mai dire è il una capo, cosa del è il capo degli, in realtà il Papa da questo punto sì, di vista, come dice Lutto, che è il capo dell'immigrazione clandestina. Ma cosa stai dicendo? Sì, ma come no, Lutto ha detto... Il fatto che che il Vaticano appunto ha delle leggi molto rigorose sull'immigrazione. Appunto, c'è una contraddizione, c'è una contraddizione. Sì. E poi le culle sono vuote probabilmente perché gli italiani hanno problemi di lavoro e più immigrati sbarcano. E poi dice che i campi di Salvini vorresti applicare le regole sull'immigrazione del Vaticano all'Italia. Metterei la firma domani mattina. Applicare le stesse regole che ha il Vaticano in Italia. Sì, ma ha ragione lui. Applichiamo le stesse regole, non entra anche nessuno. Dal punto di vista fiscale, guarda, anche il trattamento fiscale lo estenderei a tutti gli imprenditori italiani domani mattina. Allora, prendere il modello Vaticano, questa è la ricetta economica, applicarla all'Italia. No, vabbè, allora, i campi dei rifugiati come campi di concentramento, ha detto il Papa. In alcuni casi. Questo dice il Papa. Essendo il prossimo il 25 aprile, mi sembra veramente di cattivo gusto. Cioè, non è la stessa cosa, non si può. Parenzo è il primo che dovrebbe indignarsi per questa roba. Mi sembra evidente che non. Ma ha usato un'immagine forte per dire che alcuni centri di detenzione sono dei posti orrendi. Dai, questo mi pare evidente. Io voglio chiedere una cosa sul vitalizio a Salvini, e poi la lasciamo, che è questa. Tu sei pronto? Prego. L'ha fatto, per esempio, un consigliere, devo dire, dei 5 Stelle a Torino, il quale ha rinunciato totalmente al suo vitalizio. Allora, io voglio dire una cosa: lui è pronto, Salvini, a rinunciare totalmente al suo vitalizio? Guarda, con la riforma che c'è stata, no, in ma Europa. Lascia perdere la riforma. Sei pronto a rinunciare al vitalizio? No, non ho capito. Scusate. No, ma sei pronto a rinunciare o no? Ah, beh, guarda, se c'è una legge che lo propone, assolutamente sì. Cioè, sei pronto domani mattina a rinunciare? Politica per arrivare al vitalizio a 65 anni. D'accordo. Ne ho 44, spero di arrivare a 65 anni facendo anche altro e guadagnando anche altro. Quindi Salvini può rinunciare tranquillamente, beatamente e serenamente al vitalizio. Guarda che si può rinunciare non con la legge, si può rinunciare anche senza, una legge nuova. Questo lo trovo una follia. No, io lo trovo una cosa di grande lui di grande spessore. Ma no, io voglio difendere Salvini e il suo vitalizio. Lui ha lavorato. Per me far politica è lavorare. Lo ha fatto bene o male, non lo decido io, gli elettori. Ha diritto a prendersi il suo vitalizio. Che sono segnali. Quelli che fanno ricorso sui vitalizi passati, che hanno fatto un mese di consiglio regionale o 5 sedute parlamentari, dovrebbero aver vergogna davanti a se stessi e davanti ai loro figli. Fortunatamente, dal 2012 in avanti, i cosiddetti vitalizi sono stati aboliti. Quindi tu prendi quello che versi. Punto. Che mi sembra una cosa come qualsiasi altro lavoratore. No, perché secondo me perché il politico dovrebbe essere trattato come qualsiasi altro lavoratore. No, perché l'ammontare del vitalizio, versi viene deciso sempre dalle Camere. Cioè, non è una cosa automatica. Guarda, io ti so dire come funziona per l'Europarlamento. No, però scusami, Matteo, però non entriamo nei dettagli. Però la domanda è questa. Siccome c'è qualcuno che ha rinunciato totalmente, c'è qualche deputato. Anche in Lega, sì, anche non lo so, però per esempio uno dei 5 Stelle a Torino ho saputo a un certo punto che soldi restituiti, vitalizio maturato, soldi restituiti uguale, identico, cioè ha restituito tutta la somma. Sei pronto a restituire tutti ma i soldi? Ma perché dovrebbe? No? Ma non deve ma farlo, è una domanda. Magari dice no. Ti devo dar torto anche su questo. Facendo io politica per soldi o per arricchirmi, assolutamente sì. Mi sembra questa cosa di un demagogico, perché in realtà non è demagogico, Salvini, non è lo demagogico. Posso criticare sul piano delle sue idee, ma è un politico che ha fatto politica seriamente. Alcuni lavori in politica sono pagati meno di quanto dovrebbero. Ti faccio un esempio: i sindaci. Non è possibile che il sindaco, che è il lavoro più bello e più faticoso del mondo, un sindaco di una grande città arrivi a prendere, sindaco di Milano, che siamo non è d'accordo. Della Lega, non può prendere. Ma è sbagliata, sì, hai ragione. Siamo d'accordo. L'idea giusto, del vitalizio giusto. È sbagliata proprio giusto. In partenza, cioè non tu si capisce devi perché devi maturare quello che versi. Non c'è più tu il vitalizio. Devi prendere quello che hai versato. Certo, sì, ma quello che hai versato, ripeto. Come tutti gli altri lavoratori. Ripeto, io sto versando mensilmente, sì. Quello, quando compirò 65 anni, chiedo di avere indietro. Giusto. Beh, non allora, una in più, non una allora in meno. E allora non rinunci, allora. Ma perché devi rinunciare a quello che ha versato? Scusa. Ma l'ha versato, l'hanno deciso loro quanto versano. È sempre la Camera che lo ha deciso. Ma che vuol dire? Ma in base al reddito, tu come giornalista paghi. Ma quello è diverso. Ma previdenziali, immagino. E avrai una pensione. Ma è molto diverso, ma qui è un'istituzione privata che a me è diversa. Io penso che il politico, se fatto bene, valga al giornalista quello che ho versato, devo chiedere indietro. Sono d'accordo con te. Va bene. Ciao, ciao Matteo. Ciao. Allora, Vilma Salerno, vai. Buonasera, Cruciani. Volevo tornare un momento sulla questione del femminile maschile della Boldrini. Allora, soltanto un arrogante strafalcione storico ed una ingiustizia ha potuto consentire che una signora che fa l'avvocato si chiamasse avvocato. Io le voglio ricordare solo una cosa: una vecchia preghiera, una vecchissima preghiera, invocava la Madonna come avvocata nostra. Però voglio dirle una cosa, sì, non è soltanto una questione lessicale di cui le persone si sbattono i coglioni, come dice lei, perché io non me ne sbatto. A lei non se ne sbatte, la maggior parte fa parte di quello 0,1% della popolazione 0,1% italiana. Sì. Sono presidente di un'associazione pazienza, che ha bene. Una linea rosa contro la violenza. Sì, va benissimo, per carità, e nessuno, quindi, nessuno no, dice voglio nulla. Dirle questo, la mancanza di rispetto conduce anche al femminicidio. Noi abbiamo qui non una diciamo donna strozzate, il femminicidio è un'altra roba, non diciamo puttanate, dai. Ma su. Come non diciamo puttanate? Non diciamo puttanate, che non c'entra qui a niente, dai. È stata acidata, ha ricevuto l'acido. Ma che c'entra quello? Ma cosa c'entra? Marito, che non è un talebano. E allora cosa c'entra questo? Cosa significa c'entra? Che si parte dalla mancanza di rispetto. Ma non è vero. E si può arrivare a considerare la donna una cosa. Non è vero, questo come riguarda tutti, chi ha mancanza di rispetto. Ma che lo dici a me? Io sono ogni giorno al telefono. Che collegata al 1522 nazionale, ma si rende conto? Ma lei può essere collegata pure al 1550? Perché? Ma non è questione di superficialità. Lei collega la violenza. Senta, Vilma, è semplice. Non c'entra niente. I nomi al femminile. I nomi al femminile con la violenza non c'entra una mazza. Scusi, ma come non c'entra una mazza? Niente, perché non c'entra nulla. Di rispetto, ma lo vuoi non capire, c'entra niente. Vilma, non diciamo cose assurde. Su, ma come? Cioè, non diciamo follie. Non è che se uno dice un nome al femminile, avvocata o deputata o presidenta, ha più rispetto nei confronti di uno che non lo dice. Non diciamo stronzate. Non è che chi non usa i nomi al femminile allora può diventare non so, un autore di femminicidio. Non diciamo una follie rispetto. Mi dai. Vuole ascoltare anche? È una stronzata. Una mancanza di rispetto che comincia col non far uscire la donna di casa, vietarle ma cosa c'entra non far uscire la donna di casa fuori al balcone? Ma quella è un'altra roba rispetto comincia al fatto di chiamare così, comincia così, ah, come? Poi col fatto che io il calcio, poi arriva l'acido, ma lo vuole capire che è importante. A parte che il passaggio tra chi non fa uscire tra chi non fa uscire la donna su un balcone e l'acido, sì, ovviamente, per carità, in alcuni casi ci possono essere, ma cosa c'entra questo con i nomi al femminile? Scusa, Vilma, cosa diavolo c'entra? Perché la faccenda anzi lessicale, cosa cazzo c'entra? Sembra una cosa, ma io voglio dire una cosa. Vabbè, ma tu sei boldriniana, sei una tipica esponente boldriniana. Cioè, perché va bene. Le complichiamo le cose? È semplice, quella è una donna, si appella, c'ha gli appellativi di una donna. Io chiamo come semplice. Mi pare. Chiamo tu che fai, rappresentante, io dico il rappresentante di un'associazione, non la rappresentante. Chiaro, ti chiamo il rappresentante di un'associazione. No, non mi piace. E chi se ne frega? E io continuo così. Ci sono delle parole che finiscono con e io continuo e che così. Sono femminili. Vilma. La morte riguarda tutti. La morte riguarda il tutti. Presidente, perché? La per morte riguarda motivo? Tutti, uomini e donne, però. La morte, uomini e donne. La morte sì, di Vilma, sì. La morte di Giuseppe, che sono io. C'è il rappresentante Vilma. Il rappresentante Vilma. Vilma, il rappresentante. Il preside, e poi si presenta una signora con il. Ottimo, il preside Giovanna Siniscalco. Il preside Vilma. La preside. Il preside. Per quale motivo? È uguale se io dico la preside, perché mi viene meglio. Perché mi viene meglio. Perché mi viene meglio? Perché mi viene meglio? Io dico arriva il preside e poi arriva una signora con il vestito Chanel. Ma non ti costa nulla in fondo. Ma non mi interessa, non devo essere forzato a dire questa cosa. Se mi viene, viene. Se non mi viene, chi se ne frega. Se dico l'avvocato, dico l'avvocato. Se dico il deputato, dico il deputato. Se dico il presidente, dico il presidente. Dico il ministro, dico il ministro. Se mi viene bene, allora, non è che devo essere bacchettato. Che no. Naturalmente la nostra utente che ha ricevuto l'acido in faccia. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra con l'acido in faccia? Ma non mi mette in bocca cose assurde. Cosa c'entra i nomi al femminile con l'acido in faccia? Ma lei è veramente un imbecille. Scusami, se io lo dico. Lei è un imbecille. Lei è un imbecille. Lei è un imbecille. Però ama fare l'imbecille pure Patele Bourgeois. E a me e non mi bourgeois. Scandalizza. È chiaro? E Patele Bourgeois. E Patele Bourgeois. Brava. Vedi, c'è una spazzare anche via i borghesi. E Patele Bourgeois. E Patele Bourgeois. Significa scandalizzare i borghesi. Vilma, se lei pensa che c'è un io collegamento tra i nomi io al femminile, cretino, se lei mi chiama imbecille. Beh, benissimo, lei è un imbecille se pensa. Lei è un cretino. Lei è un imbecille. Se pensa, se pensa. No, no, no, se lei pensa. A me piace con che gusto dice che sei un cretino. Ma se lei pensa che c'è un collegamento tra i nomi al femminile e l'acido, lei è un imbecille, tecnicamente un imbecille. Tecnicamente un imbecille. Io le dico che può esserci un collegamento. No, lei è un imbecille, tecnicamente. È in discesa, sì, la strada in discesa, quella è la discesa. La mancanza di rispetto. La strada in discesa è quella del ponte vicino a casa mia. Ciao. Grazie. Vilma, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pranzo della domenica. Mia nonna si lamenta dei piccioni che continuano a cagarle in giardino. Mio padre decide di risolvere la situazione sparando con il fucile ad aria compressa e finendo il piccione a colpi di scopa. Mia sorella si incazza. Beh, siamo al top. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile, fidati di un miserabile. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La zanzara. Oh bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu pisci. Ma vaffanzum, pom, pom, pom, pom, pom. Chi chiava tromba, si tromba, chi tromba chiava, si si chiava. Ci scusi, Eminenza, ci scusi. Allora Beppe, visto che sei così intrippato con l'argomento squirting, ti do una dritta per capire se la tua donna squirta o no. Fammi trovare i termini giusti perché sennò Parenzo si scandalizza. Allora, metti due dita nella vagina, preferibilmente medio e anulare, e muovile ripetutamente sulla parete superiore della vagina. Il movimento è lo stesso di Neo di Matrix che invita Mr. Smith a combattere. Cercalo su YouTube, riproducilo e vedrai che sicuramente la donna caccia del liquido. Se non squirta, il liquido te lo ritroverai tutto sulla mano. Se squirta, sul braccio, in faccia, sul letto, insomma, ovunque tu sia. Mi raccomando, provaci, tienici aggiornato, facci sapere come va. Con l'intervento della dottoressa dell'altra sera, stamane sono andato al negozio di articoli sportivi e ho comprato per la mia ragazza ciabattine e cuffiette da piscina, molletta per il naso, per me fischietto e lavagnetta. Inizia il grande allenamento, siamo allo squirt training. Vi terrò aggiornati, grazie, grazie mille. Allora ragazzi, parlavo prima di quell'incredibile caso, incredibile insomma, il caso di Bedelago, Treviso. State attenti perché adesso dobbiamo fare una telefonata importante, perché c'è un tizio che potrebbe essere parente di colui che è stato, che è in fin di vita, dopo che un vigilante ha sparato, un ranger, così come scrivono i giornali locali, ha sparato contro un gruppo di rapinatori. Questo si chiama Maior, cioè quello gravissimo in ospedale, Maior, non so come cazzo si chiamano questi qua, e mentre il vigilante si chiama Massimo Zen, ha 47 anni e dice di avere paura, potrebbe vendicarsi con la mia famiglia, poveri, nessuno di noi è al sicuro. Insomma, sta vivendo una situazione assurda, perché praticamente questi gruppi di zingari, di giostrai, non so che gravitano, sono molto molto forse, pericolosi, non lo so. Sono molto molto pericolosi. Rapina nei bancomat, quello li incrocia, spara. Criminali, diciamo che sono dei criminali. Sì, dai, lui è sotto accusa per omicidio. Lui è sotto accusa per omicidio. È un atto dovuto. L'altri vedrai si che vogliono sarà subito costituire, ovviamente, parte civile. Subito costituire parte civile, i familiari di quelli in fin di vita, eh. Allora, noi chiamiamo un tizio che io ci sto risulta dalla parte essere, del vigilante, ovviamente. Ci risulta essere Moreno Mayor. Chissà se è parente di Manuel. Quello in fin di vita. Il rapinatore in fin di vita. Vai col telefono. Sì, buonasera. Mayor? Sì, buonasera. Lei è parente di Manuel? Sì. Com'è la situazione? Avete saputo qualcosa? Niente, non c'è più niente da fare. È morto? Aspettano al giorno. Ah, addirittura, è praticamente morto. Lei dice sì. Che non c'è più niente da fare? Sì, sì. Lei che cos'è, il fratello? No, io sono lo zio. Ah, lo zio. Senta, ma è vero che voi volete portare in tribunale la guardia giurata? Sì. Ma come mai? Perché non era armato, niente. Cioè, che cosa aveva in mano, scusi, suo nipote? Niente non aveva in mano. Beh, hanno trovato una pistola a giocattolo, mi sembra. Non so se era loro o no. Beh, comunque stavano andando a fare una rapina. Che rapina andavano a fare? No? No. Cioè, secondo lei non stavano facendo nessuna rapina? No, no. Beh, ma lui faceva parte di una banda. Che banda faceva parte? Cioè, non faceva parte di nessuna banda? Sì, nessuna banda, un povero cane. Che vuol dire un povero cane, scusi? Appena uscito di galera. Ho capito che c'entra, però, che era uscito di galera. Era comunque uno che faceva parte di una banda. No, non faceva parte di nessuna banda. Che faceva in galera? Reati vecchi. No, scusi, però era conosciuta come una banda che faceva rapina al bancomat. Loro hanno detto. Non è vero. Non è vero? No. Beh, scusi, una banda di giostrai ha messo a ferro e fuoco la provincia di Treviso facendo saltare in aria con l'esplosivo i bancomat di 3 istituti di credito. Dopo l'ultimo assalto la banda è stata inseguita dai carabinieri e poi è stata intercettata da un metronotte. Può essere stato un altro. Scusi un attimo, adesso va bene tutto, però che lei dica che suo nipote non faccia parte di una banda, questo va contro qualsiasi evidenza, o no? No, è vero, non fa parte di nessuna banda. Cioè non stava facendo delle rapine a un bancomat? No. E che stava facendo là, scusi? Perché? Un prelievo con la carta di credito, non credo. Perché è stato intercettato dal metronotte? Non lo so io, mai è stato intercettato dal metronotte. Beh, scusi, perché gli ha sparato? Dicevano che c'erano dei furti in giro. No, ma perché gli ha sparato il metronotte, allora? Non lo so, perché avrò avuto paura. È evidente che stava facendo una rapina. Come era evidente? L'auto è rubata. L'auto è rubata. Eravate là voi. L'auto era rubata. L'auto è rubata, allora anch'io 100 volte ho rubato la macchina, ma non ho mai fatto una rapina. Lei ha rubato tante macchine? Quando ero piccolino. E adesso che fa? Amico mio, però. Adesso che fa? Adesso sono paralizzato. Lei è paralizzato? Da che cosa? Da che cosa è paralizzato? Ho fatto un incidente. Scusi, ma la guardia giurata dice di avere paura di ritorsioni, cioè di essere. Allora perché si sente in colpa? Beh, si sente in colpa, ma dice di avere paura. Deve avere paura? Se ha paura di ritorsioni vuol dire che sa di avere sbagliato. Ma deve avere paura? È giusto che abbia paura? Vi volete vendicare? Vendicare per cosa? Beh, hanno quasi ammazzato suo nipote. Ci penserà la legge? Ci penserà la legge, perché lo volete in galera voi? In galera, che paghi giusto il suo. No, ma ho capito, scusi, però lui ha paura che di ritorsioni da parte della vostra famiglia, la famiglia Mayor, che non è una famiglia di gente per bene, no? No, siamo tutti marci. Adesso dice lei. Sospettino. Ci sono dei personaggi che sono dei criminali, scusi, o no? Scusi, però, non per dire. Lei dice che rubava le macchine. Poi il suo nipotino sicuramente non è stato in galera, ecco, e adesso è in fin di vita. Ci sono altri appartenenti alla vostra famiglia che sono dei criminali, o no? Sono pregiudicati, non criminali. Vabbè, pregiudicati, d'accordo, criminali. Non è una famiglia di notai, va bene? O di architetti. No, tutti. Questo Manuel è figlio di Radames, o sbaglio? Figliastro sarebbe. Figliastro di Radames, è un giostraio legato alla mala del Brenta, o no? È stato imputato, è stato condannato per quelle cose, dopo bisogna vedere se erano vere. Ma lei che reato ha commesso nella sua vita? Tutti. Tutti, tipo? Vabbè, tutti. Tutti, vabbè. Furti nelle fabbriche. Furti nelle fabbriche, poi? Basta. Basta, macchine. Mi pare abbastanza, però. Sì, macchine. Ti dico che io non ho mai fatto male a nessuno. D'accordo, non hai fatto male a nessuno, hai rubato. Quanti anni di galera hai fatto? Quasi 20 anni? Non è poco, amico mio. Da quanto tempo sei fuori? Sono fuori da 7 anni. Da 7 anni, vabbè. Come la vedi per Manuel, allora? Brutta? Brutta, sì. Perché ha detto, aspettano, che si spegne da solo, no? Che si spegne da solo. Beh, ma se uno va a fare una rapina, in qualche modo se la va a cercare, o no? Se uno va fare una rapina, se la va a cercare, sì. O no? Se uno non va a fare una rapina. No, però secondo te non stava facendo una rapina, vabbè. Che bisogna fare? Ma si può passare tutta la vita a fare i criminali, a rubare? Sto tirando lavoro. Pure, il lavoro. Chi te lo deve dare il lavoro, scusa? Se vado a cercare di lavoro mi dico che no, cosa faccio? Mangio la merda. Vabbè, amico mio, ciao, buona serata. Come amico tuo? Vi conoscete? Siete amici? No, non siamo amici. Buona serata, bravo. Moreno. Ok, ragazzi, è incredibile, eh? È incredibile. Hai amici strani. Ma no, ma io dico amico come così, come frase generica. Mi puzza dai. Poco, guarda. Ma che ti puzza poco? Il tono tra confidenziale che tra aveva. Tra l'altro, scusa, lo sai perché è paralizzato questo qua? Cioè, perché vengo a scoprire, mentre... No, no, ma ti assicuro, mentre prima parlavo, intanto facevo... Compulsavo su internet. Moreno Maior è stato scarcerato perché non può stare in cella, perché è in sedia a rotelle. È stato scarcerato, ha una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per rapina, capito? Maior scritto con roba, Maior. Con la J. Gruppi di banditi che negano anche di essere, negano, in realtà poi dicono di essere banditi. No, lui no, dice di essere bandito. Comunque, hai visto? Ma deve temere qualcosa la guardia mamma giurata. Mamma mia che faccia che c'ha però. Sì, evidentemente si sente in colpa, sa di avere sbagliato. Una roba pazzesca. Allora, Alex da Prato, vai. Alex da Prato. Alex. Buonasera. Dimmi Alex, dai. Buonasera, no, senta, volevo dire che il Papa ha rirotto coglione un'altra volta, come ho già puntualizzato. Bravo, ma come sì. Si fa? Perché a dire la politica, sinceramente, cioè deve fare la politica. Ma come si permette? Ma io dico, ma guarda che è una cosa vergognosa. Cioè, la prossima volta dici una puttanata così mi pulisco veramente con una coppia della Sacagliattone. Ma non che diciamo cose questo non c'entra nulla, schifose. Ma perché cosa... deve Alex, insultare gratuitamente un capo spirituale? Ma lei, questo non c'entra niente, la sacra sindone, le cose, pulirsi il culo. Che è una roba blasfema che lei ha detto, vergognosa, schifosa e blasfema. E glielo dice uno che non è cattolico, ovviamente. Dai, Alex, io non ho capito. Ha ragione, però quando dice che ha rotto le palle. Ma perché non aprono il Vaticano loro? Ma infatti è una follia. Cosa vuol dire? Ma che cosa? Lo fanno attraverso le missioni, attraverso le organizzazioni cattoliche, la Caritas. Lo fanno attraverso questi, il ruolo dei cattolici nell'assistenza. Ma lei è un cretino, lei è un idiota. Lei è un imbecille, un idiota, imbecille delle 20:26. Ma lei è un imbecille perché non sa la quantità di associazioni cattoliche, cito la Caritas, la comunità di Sant'Egidio, e quante ha manicato. E lei è chi l'ha messo al mondo quel giorno sbagliato. Lei ha manicato quel giorno sbagliato in cui si bucò il preservativo a suo padre e lei disgraziatamente venne al mondo. Questo non è buono, questo non è giusto. Sono tutte ammanicate. Lei è un volgare insultatore di una fede che è seguita non da me ma da milioni di persone nel mondo. No. Insulta un'autorità, qual è il Santo Padre. Sono che si loro insultano loro con la loro demagogia. Ma noi quale insultano demagogia? Con la loro demagogia. Lei e il popolo italiano non l'ha ancora capito, comanda il Vaticano. Basta, forza. Ha ragione Alex. No, forza Casapando, che cazzo. Tutti. Ma che c'entra Casapound? Vedi che si scopre il fascistello. Ma che c'entra Casapound adesso? Che sei un militante di Casapound? Ma non sa niente poi. Cosa c'entra? Firmati da chi furono i partiti lateranensi? Signor Mussolini, Salame. Stupido Salame. Stupido Salame. Mussolini firmò i partiti lateranensi. Polizia, suo cervello. Mussolini che non c'entra un cazzo. Al suo cervello ci vuole la polizia. Tra poco torniamo. Fra poco torniamo per il gran finale. Fermi. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica. Col napalm. Fiamme nel campo Rom. Napalm. Tua madre lo diceva. Adesso aborto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Get your kicks, you gotta run fast from the gloomy grips. Keep the bad thoughts out and smoke away. Come on and get yourself together. l'ho con Napoli, con napoletani, no, assolutamente non ce l'ho, per carità. Cruciaci, scartava trata Waller. Ero a farmi i cazzi miei nel mio capannone, mi si esibiscono davanti al portone due persone, uno tozzo e lardoso, l'altro colorato tipo muslim, mi fanno: siamo testimoni di Geova, lo sai che il mondo è governato da Satana? La mia prima risposta qual è? Asmodeo, vai via. La mia seconda risposta è stata: il mondo è governato dalla figa, andate a fare in culo. E gli ho chiuso il portone in faccia. Questo è un genio. Siamo al degrado, però ormai, no? Questo è un genio assoluto. Il mondo è governato. Li manda a fare in culo dicendo: lo sai che il mondo, no, è governato dalla figa. Il mondo, vai a fare in culo. Tu e testimone di Geova. Dall'amore, ma dal volersi bene, no? Ma uno no. Si può scervellare sulla Trinità. Cioè, questi si dividono dai sul. Ma uno nel, oggi, ma perché devi pensare alla Trinità? Ma cosa vuol dire, dai? Pronto? Paola Re, buonasera. Buonasera. Buonasera, chi buonasera. Parla? Mi chiamo Cruciani, sono di Radio 24. Buonasera. Ah, buonasera, buonasera. Mi dica. Signora Re, allora, perché lei se la prende con questi partigiani che vogliono fare il pranzo a base di Arista domani? Mi spieghi? Con molta calma, vorrei capire da lei perché sì, se la prende con questi. Intanto vorrei sapere chi è che le ha dato il mio recapito, perché io sono stata contattata dal signor, se non sbaglio, Roberto Poli. Si chiama Riccardo Poli. Che no, non ma è parente di Paolo Poli, il grande attore defunto, purtroppo. Non è parente. Mi dica, signora Paola, mi dica, noi siamo giornalisti. È uno di Verona che fa nuoto, ma è bravo. Con molta calma, vogliamo capire perché lei se la prende con questi che vogliono organizzare questo pranzo a base di Arista, che è interessante. Ma non ho capito, ma lei mi sta telefonando da una trasmissione? Sì, certo. La Zanzara si chiama, cara. Salve. Ah, no, guardi, io non voglio parlare in trasmissione. No, ma io sono Parenzo, però, perché ho capito le sue ragioni. Ecco, Parenzo. Sono Parenzo io. Buonasera, signora, intanto. Buonasera, sono Parenzo. Buonasera. Ecco, grazie. No, perché tra l'altro io posso anche capire, perché poi non mangio neanche io il maiale, perché sono di religione ebraica, quindi volevo capirne bene le ragioni anche di questo. Grazie. No, il problema è che io non voglio parlare in trasmissione, perché non è una trasmissione, è un caravanserraglio, cioè definire una trasmissione sarebbe anche eccessivo, secondo me. Quello che voglio... Le trasmissioni sono quelle della Rai, della 7. Questa non è una trasmissione, è un caravanserraglio, quindi possiamo parlare tranquillamente. Quello che voglio capire da lei, signora, mi scusi, è perché questi qua non possono cucinare l'arista? È questo che non mi risulta. È interessante. Pronto? Signora? Signora? Sì, ecco, dica. No, perché non possono cucinare? No, non è una trasmissione, l'ho già spiegato, è un caravanserraglio, nel lasci stare, perché non possono cucinare l'arista? Ma come lasci stare? Voi telefonate a un numero privato? No, voglio dire, lasci stare, non è una la trasmissione è un'altra cosa, la Rai fa trasmissioni, questa è un'altra roba, è un happening, chiama gente che non si lava, pornografi, è un'altra roba, quindi possiamo ragionare tranquillamente. Perché allora, l'arista non la vuole? Io vi auguro la buonanotte. No, però scusi, ancora è presto. Ma sono le 8:35. Ma sono le 20:35, signora. Sono le 20:35, che notte. Qui ancora stiamo, è prestissimo. Solo capire perché no l'arista. Ecco, solo io questo, quello non capisco. Perché i partigiani non possono cucinare l'arista domani? Solo questo e poi la lasciamo. Io non capisco perché mi avete telefonato. Ma per questo, perché lei ha fatto una protesta ufficiale per l'arista al pranzo del partigiano. Allora io voglio capire perché non possono mangiare l'arista. Solo questo, poi la lasciamo. Per carità, non voglio fare nessun tipo di violenza. Ma per carità. Pronto? Pronto, signora? Pronto? Signora? Pronto, signora? Pronto, signora? Allora, ragazzi, c'è un signore che viene accusato, la cui famiglia viene accusata di collusione con Di Maio. Queste cose mi fanno incazzare, perché per accusare Di Maio o chiunque altro di avere delle collusioni con la mafia, con la camorra, certo, bisogna avere delle prove concrete. Bravo. Francesco Tiberio Latorre ha scritto un post: aria nuova, la speranza per i giovani si inizia ad intravedere, forza ragazzi. Sotto una fotografia con Di Maio e dei rappresentanti dei 5 Stelle a Mondragone, provincia di Caserta. Questo Francesco Tiberio Latorre è figlio di un camorrista. Lui, abbiamo controllato, è incensurato. Incensurato. Allora, Francesco Tiberio La Torre, buonasera. Buonasera. Salve. Salve. Allora, stanno accusando i 5 Stelle locali di Mondragone, in particolare anche Di Maio, di essere vicino alla camorra. Tutto questo perché lei ha mandato, ha scritto una frase su Facebook sotto una foto dove c'erano alcuni ragazzi dei 5 Stelle di Mondragone insieme a Di Maio. Cosa dice lei? Senti, io non sono un camorrista, né faccio parte della camorra, quindi non vedo questa vicinanza alla camorra. Io ho solo fatto un commento a un profilo Facebook, ma io non sono un camorrista e quindi non mi sento io vicino alla camorra, anzi sono un anticamorra, quindi perché io devo essere avvicinato alla camorra o Di Maio, che tra l'altro non lo conosco. No, tra l'altro lei conosce la signora Picerno? No, personalmente no. Sa chi è? L'ho seguita adesso per questo caso, che è un parlamentare europeo. Sì, esatto, del PD, che ha scritto: a Mondragone tra poco ci saranno le elezioni amministrative. A supportare la lista di 5 Stelle è arrivato oggi il vicepresidente della Camera Di Maio, il figlio del boss La Torre, commenta entusiasta su Facebook. Capito? Ho capito, sì, ho capito, ma io non faccio parte della camorra. Ho preso le distanze dalla mia famiglia a livello della legalità. Per quanto riguarda mio padre, non è un camorrista attivo da 15 anni. Quindi parlano di una cosa. Sì. È l'assessore locale di Mondragone, tra l'altro membro del PD, lo sa bene che la camorra non sono io, non sono la camorra. Io sono il figlio, sì, ma non sono un delinquente, scusate. Però suo padre è un camorrista, no? Senza dubbio. Senza dubbio. Sì, no, ho capito, ma che c'entra però, scusi, in questo caso? In questo caso, le vicende personali di Francesco Tiberio La Torre non hanno nulla... Scusate, se mio padre è un camorrista devo farlo anche io, perché altrimenti... No, per carità, la responsabilità penale è sempre personale, figuriamoci. Ma... No, assolutamente. Io non ho carichi pendenti per mafia, non ne ho mai avuto, quindi mi sono sempre lontano dal territorio, mi sono trasferito a Mondragone un anno e mezzo dove lavoro, come portiere in un condominio. Sì. Quindi non vedo... Lei vota? Lei voterà a Mondragone? No, sono residente a Udine, quindi non voto a Mondragone. Fortunatamente voto a Udine, dove ho vissuto per tanti anni, sono da un anno e mezzo che mi sono... Lei ha simpatie per i 5 Stelle? Non ho simpatie per le 5 Stelle, sono del vecchio Partito Socialista, che ahimè non c'è più da votare, quindi probabilmente non voterò queste elezioni. Ma lei che cosa ha votato nella sua vita? Lei ha 30 anni più o meno. Non ho avuto mai il piacere di votare, perché non ho mai provato un partito politico che esprimesse delle idee vicino alle mie. Volevo votare Bertinotti una volta, ma poi alla fine non ho votato. Non l'ha votato. Addirittura, cioè lei era quasi comunista. Io sono comunista. Lei sono è comunista. Beh, adesso è comunista. Lei è comunista. Ma scusa, sono anche anticamur, però purtroppo, siccome c'è il nome di mio padre, va avanti questa storia qua. Mi dispiace, ma non scusi, sono vicino. Scusa Francesco, tu hai scritto: aria nuova, la speranza per i giovani, si inizia ad intravedere, forza ragazzi. Sono 40 anni nel comune di Mondragone, governano sempre gli stessi. Sono sempre le stesse persone che governano in modo schifoso, si mangiano i soldi, il solito sistema che c'era una volta. Dunque tu vorresti io vorrei un cambiamento, che vincessero questi dei 5 Stelle. L'ambiente, ci sono dei ragazzi di Mondragone che fanno politica attiva, vinga chi vinga, basta che non vincono i soldi partiti. Tutto qua. Dunque tu hai scritto questa cosa non perché vuoi che vincano i 5 Stelle? Assolutamente no. Perché conosci Di Maio? Conosci Di Maio? Ma non l'ho mai conosciuto Di Maio, non so nemmeno chi sia per televisione, come conosco Grillo, Berlusconi, Renzi. Ho fatto anche qualche commento positivo a Renzi, non mi volete avvicinare a Renzi? Il fatto che tu sei il figlio di un camorrista, il problema sai qual è stato? Associano Di Maio alla camorra. Posso rispondere? Dimmi. Sul territorio del Partito Democratico c'è un assessore alla legalità che io ci sono vicino, ha subito della camorra negli anni precedenti. C'è questo Benedetto Zoccola, il vice sindaco. L'assessore Zoccola, il vice sindaco, ha subito degli attacchi. L'assessore sa benissimo che io sì sono il figlio di Augusto La Torre, ma non sono un delinquente. Ci conosciamo da piccoli, ci salutiamo se ci vediamo per strada. Cioè vi conoscete, vi incontrate quotidianamente? Non tutti i giorni, ma ci vediamo due volte in un mese, capite? Ci possiamo vedere sul comune, fuori al bar del comune, ci salutiamo, abitiamo a 150 metri, da piccoli abitavamo a 30 metri di distanza, siamo cresciuti nello stesso radore. Dunque sono loro che devono vergognarsi, dici tu, di aver accostato il tuo nome a quello allora, di... Allora, se hanno strumentalizzato il nome di mio padre, mettendolo vicino a mio, che tra l'altro io non vedo mio padre da 6 mesi, che comunque è a Torino, è mio padre, ma no, di mio padre l'ho visto l'ultima volta nel 91, poi l'ho avuto un permesso 3 anni fa e ci siamo 10 minuti insieme, sì. Poi vivo un rapporto con mio padre, una volta al mese o una volta ogni 2 mesi faccio un colloquio. Ma devi chiedere scusa per qualcosa che ha fatto tuo padre? Ma io non devo chiedere scusa per quello che mi ha fatto mio padre, chiede scusa a mio padre, io chiedo scusa per gli errori miei. La camorra ti fa schifo? È normale. male, a te non ti fa schifo? No, a me figurati. A me mi fa schifo, altrimenti facevo il camorrista invece di andare a lavorare. Avevo anche una carriera spianata, potevo approfittare, no? Sì, dunque è il PD che si deve vergognare di questa roba? No, non è il PD, perché il PD... Beh, il PD ha fatto la polemica, cioè sono le persone... due persone che ci hanno messo la faccia. La Picerno e questo Zoppo. La Picerno che si è fatto delle domande e ci dà la risposta, Uto Mazzullo. Sulla Repubblica, che è un giornale del PD, ha fatto delle domande già con risposta inserita. Io non ho, se le va a vedere il mio casellario giudiziario, io non c'ho precedenti penali con la giustizia. Fortunatamente non ne voglio avere. La Picerno scrive: sa il figlio che non ha mai preso le distanze? Sa che il figlio non ha mai preso le distanze? Vabbè, dalla... Chi gliel'ha detto a lei che non ho mai preso le distanze? Si è andato a informare, mi ha chiamato come l'avete chiamato voi, me l'avete chiesto. Voi me lo state chiedendo, no, anzi... io prendo le distanze. Quando mio padre ha iniziato questa carriera, sì, nell'86 io non ero nato, altrimenti gli diceva cambia. Non ho avuto tuo padre è stato un pluriassassino, diciamo la verità. Cioè, è stato uno che ha fatto dei delitti molto gravi, Nessuno lo mette in dubbio, sta scontando una pena in carcere da 30 anni. Gli vuoi bene ancora? Normale, padre, ma che domande devo fare? No, è che ne allora, so, sai, ci sono tanti casi. Per quello che è la vita di mio padre, a me mi fa schifo. Però quando siamo nella stanza, è mio padre. Certo. Buonasera, se gli serve la maglietta, gli mando la maglietta, lo vado a trovare. Certo. Io non ho avuto il piacere di mangiare una volta a casa con mio padre, perché stavo sempre detenuto. Ci sono dei pro e dei contro in ogni cosa. Io personalmente ho avuto solo problemi in questa situazione. Io non capisco perché per la magistratura mio padre non è più un camorrista, per l'assessore alla legalità è il capo della Camorra di Mondragone. A Mondragone non c'è più il clan La Torre dal 2002. Da parte loro dovrebbero, essendo rappresentanti... Dovrebbero chiederti politica, scusa o no? Dovrebbero chiederti scusa? Uno dovrebbe chiedere scusa a me, dovrebbero chiedere scusa a questo ragazzo Di Maio. Va bene Francesco, grazie, ciao, ciao. Allora ragazzi, io per carità, magari poi c'è un grande inganno e questo è il capo della Camorra a Mondragone, Cioè, però questo Francesco però, Tiberio La Torre, cazzo, ha dato una bella lezioncina a questi qua del PD, Ragazzi, qualche bastonata forte. Magari ha commesso un piccolo errore. No, questi vogliono accostare, hanno accostato Di Maio alla Camorra, diciamo la verità. Questa è l'operazione che c'è stata. La foto su Facebook, il commento del figlio. Ma è vero che in passato i 5 Stelle fecero lo stesso con PD. A me non mi interessa quello che hanno fatto nei passati 5 Stelle. Quando l'abbiamo fatto, quando l'hanno fatto l'abbiamo bastonati. Qui si bastonano tutti. In questo caso hanno fatto hanno fatto un'operazione vergognosa. Sì, questo ragazzo qua, che mi sembra uno di 30 anni, che fa, che cos'è che ha detto? Non so che cosa fa. Il portiere in uno stabile. Mi sembra molto più intelligente di tanti militanti politici o di tanti parlamentari dello stesso Partito Democratico. Ha dato una lezione, anche se vogliamo, di legalità, perché dice: io che cazzo c'entro con mio padre, la vita di mio padre mi fa schifo, l'ho detto, l'ho ripetuto, non sono a favore dei 5 Stelle, non conosco Di Maio. Una frase che ho pubblicato viene interpretata come vicinanza di Di Maio alla Camorra, ma è una follia ragazzi. Su, Marco dalla provincia di Pavia, dai, richiamatemi quella stronza poi prima. Marco dalla provincia di Pavia, ciao. Quella di prima là, dai, vi ho chiamato per un motivo fondamentalmente. Volevo sapere voi come vi regolavate con le scorrette. Con le scoregge? Beh, io sono un grande estimatore delle scoregge. Vast program, del profumo, del profumo. Perché hai qualcosa da dirci a riguardo, Marco? No, perché ad esempio a me capita di farle in pubblico, ma normalmente. Lei è uno schifoso maleducato. Perché lei è uno schifoso maleducato. Ma a maggior ragione. Che fa di mestiere? Che fa di mestiere? Faccio. Aspetta un attimo. Pronto? Signora, scusi, sono sempre io. Perché mi ha chiuso il telefono in faccia? Sì, questo non ha senso. Lei è una maleducata, lo sa? Signora? Signora Re? Signora Re? Non questa qua senso. È un'animalista maleducata però, È veramente maleducata questa signora qua, dai. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo. E dicevi? Non mi interessa. Che dicevi, Marco? Lorenzo, ad esempio, vorrei sapere lui come si regola. Lui come fa? Ma cosa vuol dire come lo stimolo, ad esempio? Ma non mi succede, sono una persona educata, mi trattengo. Magari no, se mi capita vado in bagno, ad esempio, se dovesse succedere, ma non succede, ma non succede. Ma no, ma va bene, ma è normale, durante la giornata magari Ma no, io non soffro di meteorismo, cominciamo a dire questo ad esempio. Capisco che lei è cruciale, se tu pensi che avete problemi di meteorismo, allora ad esempio c'è un rimedio ottimo che è il carbone. In farmacia vendono delle pastigliette. Ho capito, ma chi se ne frega, uno che si no, ma voi, che se si aprano, che si aprono gli orifici, che si aprono gli orifici, che si aprono gli orifici. Perché potrebbe essere meteorismo, in effetti, non l'avevo mai considerato. No, ma si capisce anche da quello che dice, perché lei soffre di meteorismo non soltanto in quella zona lì, ma anche verbale. Lei fa del meteorismo verbale, ad esempio. No, no, assolutamente. Ma lei che fa di mestiere, Marco? Che fa di mestiere? No, lavoro in una scuola primaria. Beh, lei è professore. È professore. Professore, no, sono maestro. Maestro in una scuola elementare. Lei scorreggia dentro la scuola? Scorreggia dentro la scuola, sì. Ogni tanto sì. Beh, questo è buono, questo è buono. In provincia di Pavia. Mamma mia, c'è Marco, maestro supplente, che scorreggia a scuola. Ma pensa al degrado della scuola italiana. Meno male che mia figlia non va lì. No, c'è un aneddoto simpatico. Non so se posso raccontarmi, sì, tutto si può raccontare qua, tutto si può raccontare. Poi ti difenderemo noi, dimmi. Prima dell'uscita eravamo davanti alla porta, era già suonata la prima campanella, dovevano uscire i ragazzi, sì. E mi è capitata di mollarne una. Molto bene. E stranamente se ne sono accorti? Ha fatto un po' di odore. E c'era anche un'altra maestra, c'era la bidella e c'erano i bambini in fila, e la bidella ha subito dato colpa a un bambino che solitamente fa queste cose, e questo bambino si è assunto la colpa e è tu? Rimasto un po' scherzato. Io non ho confessato niente, me la sono tenuta. Hai fatto attaccare il bambino. Me ne sono reso conto, lì per lì è stato duro, però... Mamma mia, Parenzo, di qualcosa. Di ma cosa vuol dire? Chiamiamola soprattutto il ministro Fedeli immediatamente. Mi pare una cosa di una vergogna... Mi pare vergognoso, ma che... Ma vergognoso è... No. Michele da Milano, la grande confessione di Marco. Ho scorreggiato davanti ai miei alunni e uno si è preso la colpa. Io non ho detto niente. Michele da Milano, vai. Ho riassunto bene però. Michele, vai. Sono io? Sì, dimmi Michele, dimmi. Volevo dire, ma perché Parenzo ce l'ha sempre a favore dei Negretti? Quale Negretti? Negretti buono, vai. Negretti. In che senso? Perché? Come mai? Perché? Perché sempre li difende, sti Negretti. Dove abito io, che abito vicino a Bresso, c'è un centro di questi negri qua. Sì, centro dei negri, centro dove ospitano i negri. Dei negri. Allora? Ride, poveretto, ubriaco. Vabbè, rida, ubriaco. Noi ci ubriaco. Sono tutti Negretti qua. Sì, Negretti, e l'altra sera mi sono girati un po' le balle, perché io l'ho visti, sì, che li portano su e giù con i pullman di linea. Con i pullman di linea, certo, li portano. Sì, pullman di linea. Invece vedo degli italiani che fanno i barboni. Sì. Ecco, come mai questo? Come mai gente come lei ha ancora il diritto di cittadinanza in questo paese? Chiediamoci. Perché io sono un italiano. Ecco, infatti ogni idiota, certamente. Allora, sì, infatti, io sono un italiano e mi trattano di merda. Invece ci sarà un motivo, Negretti, se la trattano di merda. Negretti li difendono, ci sarà meglio quei Negretti di lei. Guardi un po'. Ah, sono più meglio di me. Sicuramente. E più meglio senza di lei, non sono? Più meglio non si dice, però può essere meglio che qualcuno di loro sia migliore di me, sicuro. E magari un domani, vedi, uno di loro condurrà questa trasmissione. E perché non difendi quegli italiani che sicuro sono in giro? No, io i in generale non difendo gli idioti, quindi no, non la difenderò. Ma gli italiani mai che fanno i barboni in giro, perché non li aiuti? Chi ha mai detto che non bisogna aiutarli? Ragazzi, mi avete rotto i coglioni, a domani, ciao. Todo cambia! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beppe, porca puttana. Radio 24. Libera la voglia di fare.